avete rotto i coglioni con questo programmino. Perché un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Amici miei, quando i sindacati si muovono con una sola voce, anche se ci sono alcune posizioni diverse, quando i sindacati si muovono praticamente con una sola voce, e soprattutto la CGIL, il più grande sindacato dei pensionati italiano, cioè la CGIL di Susanna Camusso, amici miei della Zanzara, popolo della radio, contro Renzi, a favore dello sciopero dei dipendenti della RAI, beh, signori miei, bisogna essere molto duri. A lavorare! A lavorare! E sentiamo la signora Camusso che dice: i lavoratori della RAI già fanno sacrifici. Io non le posso sentire queste cose, Parenzo. Queste cose io francamente non le posso sentire. Nel merito puoi anche forse avere ragione. Ma il sindacato deve fare il sindacato, cioè voglio dire. Hai detto le solite cazzate. Dai. Hai detto le solite banalità. È finito. È un mondo finito. Morto. Tu che sei garantito a 25.000 euro al mese con i servitori a casa, te ne puoi fottere del sindacato. Ma ci sono persone che invece non se ne fottono del sindacato. E quindi il sindacato, anche questo, difende anche interessi corporativi. Continua a battere. Stai zitto, Camusso. Perché bisogna fare i sacrifici in tutte le aziende pubbliche, quindi anche alla RAI. Poi sacrifici i lavoratori della RAI ne hanno già fatti e continuano a farne. Signor Giletti, questa mattina credo qui da Milan ha detto: lo sciopero è ridicolo, una follia. Bisogna dire che Giletti ha una posizione un po' diversa. Magari i tagli riguarderanno anche lui, che ne sappiamo. Magari taglieranno i prossimi contratti. Comunque dice che lo sciopero è ridicolo e io sono d'accordo con Giletti. Lo sciopero oggi mi sembra ridicolo, mi sembra follia, nel senso che tu ti devi confrontare un'opportunità, quella che in fondo ci dà Renzi. Certo, 150 milioni è una cifra enorme, ma fare rispondere con uno sciopero è l'ennesima dimostrazione di quanto sono conservatori certi soggetti. Mm. Oh, Gasparri si scontra con il nostro amico Giglioli dell'Espresso, perché giustamente dice Giglioli: beh, insomma, i partiti hanno messo cani e porci alla RAI, perché è vero. Aspetta, fammi. Ma spiegami questo, ha invitato Gasparri a quella tavola. Aspetta, Giglioli Gasparri, senti. La cosa divertente è che i partiti tutti, compreso quello di Renzi, compreso quello di Gasparri, hanno creato questo enorme baraccone negli anni che hanno riempito di loro clienti, di loro amici. Mi piacerebbe sapere quanta gente il PD ha messo in Rai, quanta gente Gasparri ha messo in Rai, quanta gente. Io non ce l'ho messo nessuno, mi faccia lei un nome. Ce l'avrà messo lei, il suo editore De Benedetti. Parli dei parenti del suo editore. Lo sa che ci sono i parenti del suo editore? Lo sa che ci sono i parenti del suo editore? Non interrompa quando parla. Lei ci sono i parenti, non ha messo nessuno in Rai. Il suo editore ha messo i parenti in Rai. Ma i parenti dell'editore credo che sia solo una, cioè Paola Ferrari, moglie di un De Benedetti, insomma, no? Ma che c'entra? Ma non c'entra nulla, infatti. Non c'entra assolutamente niente. Ma non c'entra niente perché tra l'altro si sono sposati dopo, quella era già in Rai. Appunto, quindi ha detto una stupidaggine. speranze violentate. L'altra incredibile vicenda di questi giorni, a parte lo sciopero della RAI, che è patetico, ridicolo, vergognoso, direi anche per quelli che fanno i sacrifici, ma lasciamo perdere. E l'altra vicenda è un'altra cosa incredibile, pazzesca. Cioè, la vicenda è molto piccola, magari, che interessa gli addetti ai lavori, della signora Barbara Spinelli. Barbara Spinelli è stata una delle ideatrici, ex moglie del signor Padoa Schioppa, tra l'altro, ex compagna del signor Padoa Schioppa. Nonché figlia del grande Altiero Spinelli, fondatore dell'Europa. Assolutamente, la quale è la creatrice della lista Tsipras, l'altra Europa. Ha detto sin dall'inizio che non sarebbe entrata al Parlamento Europeo, con grandi polemiche, perché uno dice: come ti candidi? Poi non niente, lei dice: io sono un candidato bandiera. Dopodiché in queste ore ci sta ripensando la signora Spinelli, ci sta ripensando, dice: no, un sacco di gente mi chiede di andare in Europa, cioè ancora peggio. No, non solo dice all'inizio che non vuole entrare e si candida lo stesso, come fa un Berlusconi qualsiasi, che si candida così per prendere i voti, ma poi ci ripensa fottendo uno dei due che sono, che entrerebbero al Parlamento Europeo. Senti la Spinelli cosa diceva all'inizio di marzo, eh? Qui non è così. Non, ritirandomi io, il candidato che non va a Bruxelles e Strasburgo lo dice fin da questo momento. È molto chiaro con i propri elettori. Non nasconde la cosa e non lo dice all'ultimo minuto. Qui non lo dice all'ultimo minuto, e no, è esattamente il contrario, cara Spinelli. Tu lo dici all'ultimo minuto. Tu lo dici all'ultimo minuto. Cioè, hai fottuto gli elettori due volte. La prima volta candidandoti e dicendo che non saresti stata eletta, non saresti andata a Strasburgo. La seconda volta perché adesso ci ripensi, per problemi interni, non lo so, non me ne frega niente, alla sinistra. Oppure perché c'è il richiamo del Parlamento Europeo e qualcuno ti dice che magari avrai degli incarichi. E invece, zac, adesso vuoi entrare al Parlamento Europeo. Vergogna, vergogna. No. Vittorio Feltri a un certo punto ieri sera, durante sulla 7, durante l'area che tira, dice: vado a dormire. Sono maledettamente difficile. Allora, Marca, la firma, devo andare in pubblicità. So che la buona fe vuole rispondere, penso che anche Feltri voglia la parola, e torniamo sul tema dei frenatori, perché questo tema di acchiappare, della velocità di Renzi, di quelli che vogliono frenare, è un tema che c'è tutto. Pubblicità, e poi facciamo vedere un servizio. Io vado a dormire, cara. No! Sì, dai. Vado a dormire. Vabbè, abbiamo già un ospite collegato, un grandissimo ospite per la prima volta alla Zanzara, credo. Però prima cosa voglio farvi sentire? Ce l'ho qua sulla punta della lingua, ce l'ho qui, eccolo qua, dov'è? Ah, beh, sì, è Fabrizio Barca, che ieri ci ha dato dei ladri. La Zanzara, ladri. Sentite, sempre la solita vicenda degli scherzi telefonici, che coglioni. C'era una, come dire, un succo in quella telefonata. Il succo era questa frase che noi abbiamo riassunto così: non c'è un'idea, siamo agli slogan, fra 30 giorni, quando si capisce che non c'è niente, il paese va di testa. Sbagliava, ha sbagliato previsioni. Ma guardi, ho sbagliato, eccetera. Ha cambiato idea. L'ho già sentito da altri, diciamo. E ho detto sin dall'inizio che parole rubate uno ne deve chiedere conto ai ladri. Ci sono dei ladri, ma ha rubato delle parole, chieda loro. Sono stanco di stare qui, chiuso in un armadio. Balotelli ha già fatto gol ed io non ho la radio. Ma tuo marito che cosa fa? E non dovrebbe essere giù in città. L'Italia gioca, io sono qua. Non sarai mica la moglie di Cacà. Non voglio. La voce è il grande ritorno dopo 20 anni. Questo è il vero inno dei mondiali. Altro che Negramaro, amici miei. Altro che Negramaro. Gene Gnocchi, ciao Gene. Ciao. Ma che ti sei messo a fare, Gene? Dopo un sacco di anni insieme a tuo fratello avete prodotto un disco. Ma che roba è? Siamo come i Bee Gees, come i fratelli Gibb, siamo i fratelli Gibb bianchi o le Carlucci di colore, ecco. Diciamo, per i detrattori. E quindi abbiamo ci è venuto in mente questo disco. Non so se conoscete dei My Be Giants, è un gruppo. Ma no, ma che, noi non conosciamo niente. Non musica, conoscete ne, ah beh, allora, ma figura, siamo ignoranti come no, le bestie. Sono quei gruppi che fanno 18-19 canzoni per album, anche 20, no? Anche canzoni da un minuto, così, ecco. Noi, sì, noi siamo così. Tu hai fatto una canzone da un minuto, quante canzoni hai fatto da un minuto? Abbiamo fatto qualche pezzo da un minuto e 20, un minuto e 30. Ma lo sai che mi sa che sono più intonato io di te? Cioè, è una cosa pazzesca. Non credo proprio. Ma assolutamente non sì, guarda. Non te lo credo proprio. Ma se, se vuoi andiamo a X Factor tutte e due. Allora, Babba Lotelli, caro Parenzo, racconta l'avventura di un povero amante rinchiuso dentro un armadio durante le partite dell'Italia. Come hai potuto sentire? Che voto dai alla voce del signor Gene Gnocchi, Parenzo? Testo possiamo dare 8, alla voce bisogna dare un 2,5, ma no, al no, testo 2,5 esagerato, 8. No, 8. Dai, su, testo 8 e voce 2,5, ma no, ma la voce ci sta. Vabbè, ma comunque di Parenzo non ho problemi, è un po' la Mara Maionchi italiana, quindi non è un problema. È la Mara Maionchi però coi baffi, senza baffi. Sì, senza baffi, esatto. Ma fatemi sentire quello della Boschi, dai, perché c'è anche una canzone che riguarda la Boschi qui, col mutuo da pagare, un toy boy per rimanere nella Boschi, una cosa pazzesca, sentiamo. Come no. Sentiamo. Boschi. Il mutuo da pagare. Non riesco più a fare all'amore, ma... Maria Elena Boschi. Vabbè ragazzi, però così ce la faccio pure io a dire Maria Elena Boschi. Mi avete censurato, Come ti abbiamo censurato? Mi avete censurato, c'era un pezzo. Mi avete censurato, scusa, io dicevo una cosa a proposito di Maria Elena Boschi. Che dicevi? Adesso la rimettiamo, che c'è? No. Che dicevi? C'era una cosa, non ti trombo più Maria Elena Boschi. Ma no, ma che? Ma la mettiamo questa qua? Sì, ce l'abbiamo. No, ce l'abbiamo. No, ma che censurato? Noi censurato, figurati. Perché in realtà questo è il dramma di uno che deve pagare il mutuo, è un po' il dramma di Maria Elena Boschi che sta davanti alla televisione a sorseggiare il latte, no? Sì. È un po' nell'immaginario collettivo questa. Allora noi cerchiamo un toy boy per Maria Elena Boschi perché sia più contenta, perché non può insomma passare la vita sugli scranni della camera così. Ma come sai, lei ha detto che vuole avere alle parate del 2 giugno bisogna che insomma che si trovi un ganzo. Però, esatto, come tu sai, lei ha detto che vuole fidanzarsi, vuole avere 3 figlie. Hai visto quell'immagine in cui è andata a prendere i bimbi in Congo, no? Come no, ma intanto cominci con un toy boy che così si impratichisce, poi dopo fa quello che deve fare. Cioè, prima il toy boy e poi il matrimonio, eccetera. Bisogna... E poi il matrimonio, esatto. Bisogna passare una specie di cursus honorum. Cursus honorum. Senti, ma tu alla fine per chi hai votato, Gene? Io ho votato Berlusconi perché ha promesso la dentiera alla mia zia Cleonice che non ce l'ha, e quindi io ci spero, perché lui le promesse le mantiene, quindi no. Alla fine hai fatto proprio un voto ho fatto un voto d'utilità. Cioè Renzi non ci ha pensato nemmeno lontanamente, tanto ma per l'amor di Dio, no, cioè una dentiera costa molto più di 80 euro, capirai, non stai scherzando. E poi hai detto giusto, cioè le promesse di Berlusconi uno può stare certo che lui le mantiene, per cui uno se voti Berlusconi per dentiere sei sicuro che la tua zia Clotilde, come diavolo si chiama, avrà Cleonice. Scusami, prima o poi gli arriva, arriva. Allora abbiamo il traffico con Parenzo Silente che si sta trasferendo da non so da dove alla radio. Andrò probabilmente alla radio, però se no vado al Palatino, cioè a Medico, dove c'è un telefono fisso. No, non me ne frega niente, volevo sapere da Gene Gnocchi che cosa faceva per i mondiali, lavora oppure ti hanno lasciato a piedi, sei scannato per i mondiali, non fai niente? No, per i mondiali faccio una striscia su gazzetta.it dove faccio il fratello deficiente di Zazzaroni, è proprio un personaggio che commenterà il mondiale un quarto d'ora al giorno, sono come Zazzaroni praticamente, sì. No, mi chiamo Conan Zazzaroni e sono il fratello deficiente di Zazzaroni. Scusa, ma la Ferrari ti ha lasciato a piedi? Ma la Ferrari fa delle cose, fa una cosa sadomaso verso l'una e mezza di notte, quindi io non me la sono sentita di fare del sadomaso con la Ferrari. Beh, però il sadomaso con la Ferrari non deve essere male, devo dire. Bravo, hai fatto il molto bene, guarda. Ma guarda che io una cosa, sta Tommaso con la Ferrari la farei tranquillamente, cioè io sono molto milf da questo punto di vista. Sì, ma lei fa tutto illuminatissimi, no? Cioè devi stare, cioè porta il suo gruppo elettrogeno, devi fare, cioè una cosa tutta complicata. Cioè è difficile lei... fare le cose, dice, al buio. Sì, perché lei fa un sadomaso veramente molto, molto articolato, molto complesso, quindi prima si fa le luci, si fa, sì, tutto, è un casino. Ma alla fine sta storia delle luci è vera o non è vera? Diccelo tu, cioè, confessaci. Scusa, ma è notorio quando noi andiamo in onda a metà Lombardia al buio, quindi si sa, è così, cioè, è la verità. Quindi, allora, traffico, torniamo con le canzoni di Gianni Gnocchi, che si è improvvisato dopo 20 anni, è tornato a fare il cantante per il mondiale, ma gli chiederò anche di Maradona a tra poco. La Zanzara. Con il mutuo da pagare non riesco più a fare all'amore, Renzi pagherà tu la rata semestrale. Con il mutuo da pagare non riesco più a fare all'amore, paga tu la rata semestrale. Con il mutuo da pagare non riesco più a fare all'amore, non ti trombo più, Maria Elena Boschi. Eccolo, ma quale censura, Gene? Quale censura? Noi non censuriamo nulla, figurati se censuriamo noi. Noi alla Zanzara non censuriamo niente. Cioè, è bellissima questa cosa qui. I testi sono buoni, direi, la voce sono meglio io, te lo posso assicurare. Io voglio andare a X Factor insieme a te. E con noi Gene Gnocchi, che ha prodotto un disco, compratelo tutti, il vero inno per i mondiali è questo. Babba Babba Balotelli e altre cose, un toy boy per Maria Elena Boschi. Però, insomma, io voglio capire, vogliamo mettere una pietra sopra il discorso di Maradona? Ti faccio riascoltare quello che hai detto, sì, quello che hai detto, perché è stata, insomma, fonte di polemiche, eccetera eccetera, certo. Risposta di Maradona che risponde a Gene Gnocchi, io sarei contento solo per quello, perché Maradona risponde a Gene Gnocchi, mi sarei accontentato di quella roba lì. Però i tribunali, sai, sono sempre brutte gatte da pelare, come sai, no? Gene Gnocchi su Maradona. Maria Elena Boschi. A proposito di Napoli, De Laurentiis ha proposto a Maradona, non so se questo l'avete detto, di fare l'ambasciatore di Napoli nel mondo. Sì. Lo sapete questo? Sì, questo sì lo sappiamo. Ecco, però Maradona ha detto che lui vorrebbe fare solo l'ambasciatore per la Colombia e particolarmente per il cartello di Medellin. Io non so perché, comunque sono cavoli suoi. E vai a scroto. Allora, io dico solo una cosa, caro avvocato Pisani, che conosco bene, caro Diego, lo conosco meno, ci ho parlato solo una volta per telefono, me l'ha passato l'avvocato Pisani. Adesso voglio dire, Gere Gnocchi, di mestiere, non è che fa l'analista politico, anche se ci capisce pure di politica, fa il comico, il satiro, come dire, lasciatelo perdere, no? Che è successo? Vi siete sentiti? Poi hanno annunciato querela perché ha evocato la cocaina? Ci siamo sentiti, no, però ti voglio dire, no, la cosa che mi fa ridere è che in quel pezzo lì io facevo praticamente, dicevo che ero, come primo lavoro io facevo il guidatore degli scooter dei capi di Stato, sai, come quello che porta Hollande dalla crisi, sì, no? Sì. Con i due, e quindi avevo fatto appena finito una giornata intensa, perché avevo portato Hollande dall'attrice, avevo portato la Merkel da Lino Banfi, sì, avevo portato Napolitano da Moira Orfei, perché tutti con queste. E quindi a questo punto qua io mi aspettavo una querela della Merkel o di Napolitano, ma mai di Diego, perché Diego è un po' cioè quello che tutti noi calciatori sogniamo di diventare. Per cui non ho capito, hai provato a chiamarlo, ti sei sentito oppure no con Maradona? No, sono sentito con l'avvocato subito dopo, quando era successo, e l'accordo era di trovarsi a cena e di fare una gara di palleggi tra me e Diego. Vabbè, quello però è impossibile vincere. No, e invece io, proprio perché io comunque sono stato calciatore, ho detto lo metto alla prova, perché comunque insomma anch'io a palleggiare non sono male, quindi tecnicamente... E chi avesse perso poteva continuare nella querela, cioè chi avesse vinto poteva Al di là degli scherzi, ma veramente vogliono portarti in tribunale per la storia perché ma tu no, io no, io spero proprio che io comunque mi presenterei ancora con tutto truccato, con la parrucca, e quindi spero di questa cosa si capisca che era certo che a Napoli sono incazzati neri, cioè a Napoli ormai non puoi andare, secondo me, appena ti riconosco, sai, quelli su Maradona. Io vado col giubbetto antiproiettile, ma vado appunto perché quando vado, tocchi, cioè, Maradona, quando arrivo verso lì all'inizio di Napoli, metto il giubbetto, mi faccio scottare, ma vado. Vai. Sì, comunque sì, vado. Ma è vero che hai tentato di parlare con Diego? Ho provato a parlare con Diego tramite l'avvocato Pisani, ma lui non, non... No, ma poi in realtà... Cioè, ma ti penti di quello che hai detto? No, no. Ma io faccio il mio lavoro, dai, cioè, per l'amor di Dio, scusa. Cioè, non è un fatto se... chi fa questo lavoro sa che il lavoro è fatto così, cioè, non puoi neanche... No, ma infatti no, non ti penti, dai, non ti penti, dai. Cioè... Ripeto, se ho urtato qualche sensibilità, mi scuso, ma però il nostro lavoro è sempre soggetto a questa... A no, ma infatti, l'avvocato Pisani, faccio un appello qui dalla Zanzara, lei ci conosce, su... Ma con l'avvocato Pisani ci si è spiegati tante volte ormai. Senti, ma se Grillo si è candidato alle elezioni, comico, ma perché non ti candidi pure tu? Ma perché non me la sento, guarda, sinceramente, dover andare a tutte le piazze a fare i comizi, io sinceramente non sono mica... Non ce la faccio. Cioè, guarda, no, che forse in questo momento prenderesti più di Berlusconi, secondo me. Secondo me, ma... Beh. Non lo so, non ho cagnolini, non ho cose, cioè non lo so, però, il problema è che non ho un programma, capisci? Non ho un programma, ho alcuni punti fermi da... Cioè, tipo? Sto provando a intercettare il disagio giovanile, però... Però è difficile. È difficile, non è mica semplice. Però secondo me, Parenzo, se si è candidato Grillo si può candidare... Ma scusami, Geni ha appena detto che non ha programma. Beh, non è che Grillo abbia un programma di quelli, voglio dire, quindi può... Ma sai cosa mi ha colpito adesso riascoltando le canzoni? La profondità dei testi, perché effettivamente, ragionando a voce alta... Che strozzo che sei. No, se hai un mutuo da pagare non fai l'amore. Cioè, sono temi inseriti nella modernità, diciamola così. Inseriti nella modernità. Senti, invece voglio provocare Gene su una cosa. Ma Cassano e Balotelli, se fossero lasciati liberi in Brasile, che cosa farebbero, secondo te, fuori dal ritiro? Beh, loro comprerebbero un sambodromo, come prima cosa. Prima cosa comprerebbero un sambodromo. E poi non si vedrebbero mai, però il problema è che Cassano è diverso, perché in realtà il problema di Balotelli è che in ritiro sicuramente lui starà in ritiro, però arriverà la classica telefonata di qualche subrette che dirà di essere incinta di Balotelli, e questo potrebbe essere, cambierà tutta la nostra spedizione mondiale, tutte le nostre notti mondiali, cioè, alla fine solo a quello, i veri cazzi di Prandelli saranno le subrette, che quello che diranno su Balotelli, diciamo la verità. Sì, perché dopo la prima fase arriverà la telefonata, non so di chi, ecco. Fate dei nomi, chi può essere, non lo so, una a casa, una delle classiche, via. Ecco, aspetta un figlio da Balotelli, poi lui non lo riconosce, succede un casino, deve andare là, le solite cose. Vabbè, con chi stai, con Rossi o con Prandelli? Sto con Rossi perché lo conosco bene, poi giocava con me nel Parma, io ero tesserato quando lui giocava e gli ho fatto un sacco di assist. Cioè, è stato uno stronzo Prandelli, dici? Ed è un compagno di squadra. Beh, Rossi io l'avrei convocato perché si è fatto un mazzo tanto per gli ha fatto una carognata, dai, gli ha fatto una carognata, sì, sono d'accordo. Ciao Gene, canzone ciao. Finale, ciao, a presto, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. La Zanzara. Simpatica la Zanzara. Allora ragazzi, voglio farvi ascoltare qui alla Zanzara le parole del Papa. A noi di solito, caro Parenzo, non ce ne frega niente delle parole del Papa, eh? Cioè, non siamo attenti proprio alle parole del pontefice, non siamo lì ad analizzarle, a fare gli editorialisti, come si chiamano, i vaticanisti. Esatto, ma dove diavolo sei? Dove sei? Non ho capito. Non si sente! Non mi fare incazzare, non si sente! Ma non è possibile! Ogni giorno così! Allora, il Papa dice che è sbagliato preferire cani e gatti, cioè fa un appello a fare i figli. Ora va benissimo che il Papa faccia un appello alle coppie sposate a fare figli, però va oltre il pontefice. È più comodo avere un cagnolino, due gatti, e l'amore va ai due gatti al cagnolino, è vero o no questo? E beh, amico mio, però... Uno, innanzitutto, non è obbligatorio fare figli. Secondo, non capisco perché, se uno preferisce cani, gatti e figli, va benissimo anche lì. Qual è il problema? E poi non ci dimentichiamo di tutte le restrizioni della Chiesa in tema di fecondazione assistita, eccetera, eccetera, eccetera. Papa Bergoglio. Questa cultura del benessere di 10 anni fa ci ha convinto, è meglio non avere figli, è meglio, così tu puoi andartene a conoscere il mondo, nelle vacanze, puoi avere una villa in campagna, tu stai tranquillo, ma è meglio, forse è più comodo avere un cagnolino, 2 gatti, e l'amore va ai 2 gatti e al cagnolino, è vero o no questo? E alla fine questo matrimonio arriva alla vecchiaia in solitudine. Non si capisce perché uno dovrebbe arrivare alla vecchiaia in solitudine. C'è gente che non ha figli che arriva alla vecchiaia in compagnia. Cioè, capisco che la Chiesa debba farsi promotrice della, no, della nascita, dei figli, della famiglia con i figli, per carità. Ma non è che chi non ha figli, magari perché non li può avere, è un povero sfigato che muore in solitudine. Ma lui dice la stessa cosa che dici tu, eh? No, non dice la stessa cosa, dice è sbagliato preferire cani e gatti. Io invece voglio esaltare chi preferisce cani e gatti. Anche chi preferisce cani e gatti ha tutti i diritti del mondo e non deve essere trattato dal Papa come uno sfigato. Ma se hai sempre detto che non vanno messi sullo stesso piano gli uomini e gli animali. Sempre. No, ma ho capito, certo che. E lui questo sta dicendoti, no, però. Sì, sta dicendo. No, questo è il sottotesto, anzi, manco il Papa sottotesto. Sta dicendo una cosa molto semplice: che è sbagliato preferire i cani e i gatti al fare i figli. Ma non, a parte che non c'è mai questa alternativa, è solo nella testa del Papa, adesso, per carità. Cioè, non. Ci permettiamo di criticare anche il Papa, è solo nella testa del Papa l'alternativa figli da una parte, cani e gatti dall'altra, perché c'è un sacco di gente che non li può avere, c'è un sacco di gente che fa i conti, no, della serva e dice no, mi costa troppo, c'è un sacco di gente che eccetera eccetera. Ho capito, ma vabbè, non vuoi capire. TG3. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Disoccupazione record, sempre peggio per i giovani. Padoan puntare su crescita e consumi verso bonus fiscale per le famiglie monoreddito. Riforma del Senato, il governo punta sul modello francese ma resta il dissenso di una 20 di parlamentari del PD. La Lega promette battaglia con 3.500 emendamenti. Dentro Forza Italia sembra inevitabile lo scontro tra Fitto e Berlusconi e molti leader si schierano. Fini torna alla politica, questa sera ospite del TG3. In commissione al Senato passa il taglio di 150 milioni, il garante blocca lo sciopero perché è illegittimo, CGIL e UIL insistono, il decreto va cambiato. A Foggia crollo per una fuga di gas, muoiono marito e moglie, salvo il figlio di 3 anni. Per i tecnici chiamati ieri dagli inquilini era tutto a posto. Valentina, morta all'ospedale di Orbetello dopo una banale caduta, i genitori denunciano e su Twitter arrivano le offese di un anestesista. Valentina è morta, punto e amen. La nazionale italiana domani amichevole con il Lussemburgo, oggi il CT Prandelli risponde agli esclusi, non mi aspettavo polemiche, la Marina chiede un fiocco giallo sulle maglie per i Marò. Well now, little mosquito, there must be well some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So I'm nature's mosquito. Oh, vogliamo far sentire anche una signora Spinelli? La signora Spinelli che diceva: noi diciamo subito che io non vado. Noi diciamo subito che io non vado in Europa. È veramente una cosa che mi fa ridere questa vicenda qua. È veramente incredibile, incredibile. Hanno per anni rotto i coglioni sul fatto che il Berlusconi e gli altri tradivano la parola, dicevano le cose e poi non le facevano. Questa volta loro, i puri della sinistra di Tsipras, dicono che non sarebbero andati in Parlamento europeo nonostante fossero capitalista, e questo già era criticabilissimo, ma va bene. Poi a un certo punto improvvisamente la signora Spinelli pare ripensarci, pare, perché poi non so quando ce lo comunicherà, quando lo comunicherà ai suoi elettori soprattutto. Qui non è così. Non, ritirandomi io, il candidato che non va a Bruxelles e Strasburgo lo dice fin da questo momento, è molto chiaro con i propri elettori, non nasconde la cosa e non lo dice all'ultimo minuto. Non lo dice all'ultimo minuto, che vergogna, che vergogna. No, vergogna, era una vergogna prima, veramente. Cosa? Una chiedere come, prima. Come l'ho detto per il centrodestra, come l'ho detto cosa? Per quelli. Che... Cosa? Era una vergogna prima quella di dire votatemi, ma tanto non ci vado. Cioè, ti chiedo la preferenza. No, ma ho capito, non ma questa vado. È la stessa cosa che ha ora, fatto la Spinelli, eh? Sì, no, ma infatti. Ma d'accordo. Allora? Io però sulla Spinelli ti dico che era una vergogna prima. Prima, già quello. Chiedere il voto, la preferenza. Dunque, eccetera. Doppia vergogna adesso. Oggi, in verità, lei fa il suo dovere. Cioè quello ma cosa di andare, fa il suo dovere? Ma si è detto che non sarebbe andata. Fronte, ha detto che non sarebbe andata. Era un'anomalia prima. Ma ora, doppio, il fatto ma che lei presa per si rimbocca le maniche, lascia Parigi e va ma tra Strasburgo e Bruxelles. Allora, dopo che, quante preferenze ha preso la signora Spinelli? Adesso non lo ricordo. Non mi ricordo, 50.000, mamma, non è importante. Ecco, no, è importante che 50-60.000 persone ma hanno scritto ha detto Spinelli. Che non ci andava. Ho capito, ma quelli che ma chi se ne frega della Spinelli al Parlamento Europeo? Beh, no, a me, a parte che sarebbe, come dire, ma simbolico. Da Cesena, ma quale simbolico? La figlia del grande Spinelli. Dici delle cose la che sono grande... tra lo scontato e ma sono il banale a pensare scontato, banale, tu lo devi sempre fare strano. Dennis, cioè, ma che strano, perché non riesci una volta a dire una cosa lineare e normale? Ha detto che non ci andava. Invece bisogna sempre fare il barocco e il rococò. Ha detto che non ci andava. Sempre il barocco e il rococò. E vabbè, adesso ci ha ripensato, siccome 60.000 persone, non mi ricordo quante, hanno scritto Spinelli, ha detto ci vado. Vabbè, ma meno male. Al posto di un altro l'avresti crocifissa. Siccome si chiama Spinelli, a te ti piacciono questi radical chic che hanno una casa a Parigi? Ti piacciono questi radical chic di sinistra che hanno l'attico a Parigi? Ti piacciono tantissimo questi qua? Allora non sei in grado di dire che ha fatto una doppia puttanata. Non sei in grado. Marco da Parma. Marco? Sì, sono Marco. Vai, dai, forza. Volevo dire a Parenzo. Sì, però Marco, togli l'auricolare, il viva voce, quello che è. Già mi avete scocciato tra te e Parenzo, eh? Dai, forza. Stavo dicendo, volevo dire prima con la Camusso, ho sentito Parenzo che vi ascolto spesso. Sì. Mi senti? Che è meglio perdere una gamba o un braccio che essere indottrinati di sinistra. Perché? Indottrinati? Cosa vuol dire indottrinati? Lascialo parlare. Lui è tutto uguale, lui dipende solamente da quello che gli ha detto la dottrina di sinistra. Ma lui chi? Lui Parenzo. Ma lei è ubriaco, fradicio? Ho detto semplicemente che sono contro lo sciopero della RAI, l'ho detto ieri e lo ripeto oggi. Reputo una stupidaggine scioperare per questa cosa, perché è allucinante. E allora? Dopodiché il sindacato fa il sindacato. Ma che deve fare? Il sindacato è ovvio che prova a difendere alcuni lavoratori garantiti. Ma difendere che cosa? Qui non c'è nulla da difendere. Alcuni lavoratori garantiti, se no che cazzo fa il sindacato? Il fatto è che crolla un mondo perché la RAI non ha più un partito di riferimento. È rimasto Gasparri a difendere la RAI, ti rendi conto o no? Ma dai, forza. Torniamo a noi. Marco, lei ha detto che Parenzo è indottrinato, questa è l'unica cosa che ho sentito. La seconda qual è? Le dicevo, piuttosto che essere come lui, è meglio perdere una mano. Ma l'abbiamo già detta questa cosa. Perda la mano. Lasciate parlare la gente o no? Ma ho capito, ma se lei ripete la stessa cosa, che lascia. Perché lui difende solo ed esclusivamente la sinistra, è quello che dice la sinistra. Bene, poi? Basta, Antonio da Caserta. Bene. Antonio? Pronto? Antonio, forza, su, dai. No, ci sta lo stronzo, perché se no non va, da Parenzo ci sta. Sì, c'è, no, c'è. È andato via. Volevo dire a questo stronzo che questi ti hanno fatto mi la saluto dieta. Saluto sua sorella. Grazie, sono potuto ecco quattro, stronzo. Prego, piacere. Volevo Parenzo. Dire che se hanno fatto l'azienda familiare, che se la pagassero loro. Ma chi? Capito, stronzo. Ma chi? Se hanno fatto l'azienda familiare. Calma con gli stronzi, non ho capito. Chi ha? Antonio, stai tranquillo. Ma stronzo a chi? Stronzo ma a chi? Siete? Vabbè, è impazzito questo. Ha perso la brocca. Ma chi ha fatto l'azienda familiare? Ma quanti stronzi siete in famiglia? Ne ha creati 5. La devono pagare loro. Ah, la RAI ha fatto l'azienda familiare, dice lei. Si sono presi, se la sono presi il sindacato e se la pagano loro, se la gestiscono loro. Dopo il canone ci hanno messo dentro figli, moglie, nipoti. Io che c'entro, chi ha difeso Mastroma? Hanno messo dentro svegliati. Di tutto. Signor Stronzo, chi ha mai difeso? Ma chi ha mai difeso sta roba? Buttate i televisori e non pagate il canone. Poi questi stronzi come te, voglio vedere che fanno. Ma chi ha mai, signor Stronzo, mi scusi, ma chi ha mai difeso questa RAI così? Oh. Stronzo, a proposito, mi saluti la sua famiglia, è numerosa. No, mi pare che sia calma, numerosa. Antonio, ma perché le è partita la brocca su questo stronzo? Non ho capito, stia calmo, lei ha detto una cosa anche sensata. Ma io deve stare tranquillo. Non ho mai difeso questa RAI. Vuole difendere l'indifendibile questo stronzo. Non ho mai difeso questa RAI. dai, svegliati e pulisciti le orecchie la mattina. Tu vuoi difendere l'indirizzo? Tu sei solo un leccaculo, questo tu sei un cretino, perché non ti lavi le orecchie la mattina. Non ho mai difeso questa Rai. Mamma, la famiglia numerosa la sua. Mamma, che famiglia numerosa. Quanti siete? Ne ho sentiti 8 di stronzi. Siete in tanti, Eli. Tiri l'acqua ogni tanto. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Sono tempi duri, eh. La Zanzara. Le zanzare. Pronto? Sì. E il conduttore? Sì. Ma lo fanno. Beh, certo, sono il conduttore, non c'è dubbio. Oh, la topica del grano saraceno. Cosa è successo? C'è un progetto di legge di qualche mese fa dei 5 Stelle in cui, a difesa dei prodotti agroalimentari italiani dalla contraffazione, eccetera, eccetera, 14 deputati senatori dei 5 Stelle cosa scrivono? Scrivono che un terzo della pasta venduta in Italia è prodotta con grano saraceno. Ovviamente una follia. Puoi portarci in tribunale. Loro dicono: volevamo scrivere grano straniero. E abbiamo chiesto più volte di cambiare il testo presentato alla Camera. L'invasione del grano saraceno. Su internet c'è una specie di tormentone da qualche ora. Il grano saraceno dei grillini. Oh, Grillo dice che l'informazione italiana è la vergogna più grande del mondo. Parenzo resta convinto che la Spinelli può fare quello che vuole. No, no, un momento, sono due temi entrare diversi. Entrare al Parlamento Europeo, ma non fare troppo il filosofo. Cioè, no, che filosofo? Se uno, dico ha il mio detto, se uno ha detto dall'inizio. Ma non è filosofo, un cazzo, ma scusami. Vabbè, Grillo ora si lamenta dell'informazione. Lui, vabbè, che prima si è sempre lamentato dell'informazione. Appunto. Lui, allora, che dovrebbe vivere nella rete, quindi, vabbè, se ne deve fottere di quello che fanno i giornali, non c'è dubbio, ci sono, hai morti, ragione, le tu, televisioni poi? Che sono morti. Quindi non stia adesso a fare come faceva Bossi nel 94, che diceva: non, nessuno parla di noi, come poi ha fatto Berlusconi, poi hanno fatto tutti i politici italiani. Sì. La Spinelli è un altro discorso. Ho detto che ho criticato la Spinelli e tutti quelli del centrodestra che facevano la stessa cosa, cioè chiedevano i voti. Pure centrosinistra. Centrosinistra, uguali. Tutti, Lorenzin, tutti quelli che si sono, Lupi, tutti, destra, Spinelli, Pasolini, Spinelli. L'ho criticata, Spinelli, ha capito quel cretino che ha chiamato prima, quello di quella numerosa famiglia? Che è Antonio da Casa, guarda che ancora c'è, te lo scateno, vabbè, quella numerosa famiglia, secondo, cioè, famiglia sulla di stronzi, Rai, Antonio, sulla, ti ha chiamato in causa, di stronzi, quella famiglia, aspetta, stai fermo, sulla Rai, no allo sciopero, mezzi busti strapagati, no allo sciopero, hai capito? Antonio, hai capito? Allora io voglio dire una cosa. Dimmi. Allora, la Rai se l'è presa di sindacato, allora se c'ha le palle la deve privatizzare, dopo un anno tanto. Questo, bravo Antonio, se ha le palle. Renzi, però, Renzi, deve privatizzare. Così va pure contro Berlusconi, vediamo che fa. E ha ragione. Ha detto una cosa ragionevole. Ma che c'è? Ho detto che hai ragione, Pirla. Ho detto che hai ragione. E con me figli già secchi là, che non sapete fare un cazzo. Che fate? Hai capito qual è il problema? Ma che fate lì? Ma ti devi lavare le orecchie se vogliamo scendere nei bassi fondi. Lavati le orecchie la mattina, yam! Oh, il signor Mandarà. Signor Mandarà. Mi scrive Gaetano. Non l'amico Salvo Mandarà. Non mi interessa di Mandarà. Mi scrive Gaetano e mi dice: fai impazzire Cruciani. Ma su mettiti che cosa, in un posto dove si sente bene, scrive. E me fai impazzire con la tua scarsa attenzione alle attività digitali, perché mi hanno chiamato. Ma lo sai cosa è successo prima qui sotto a Monterosa a Milano? Cioè, una cosa incredibile. Una scena da Zanzara, bisognava riprenderla, mandarla in onda, sentire le voci e tutto. A un certo punto c'è un tizio ubriaco. Prosecco, per cortesia, un tizio, ragazzi, ubriaco. Che cravatta, che si mette e tira fuori l'uccello, ti giuro. No. Tira fuori l'uccello, si mette a pisciare. Ti giuro, tira fuori. Ma perché devi dire che è uguale? Ma non sto raccontando una scena. Ma perché? E perché racconti, vabbè, sempre queste scene? Perché non racconti mai? Ma è successo adesso. Ma perché ti capitano tutte a te? Perché? Ma è successo qua sotto. Sarà strano che tra tutti i fatti che potevi raccontare di oggi, quello che più ti ha colpito è uno che Ma quante volte capiterà nella... E capitano tutti a te, e casualmente alle 19.39 allora, racconti questo fatto. Allora, sarai monomaniacale o no? No, ma che c'entra? Uno... Secondo te, napoletano, no? Anche, no, perché pisciato sulla macchina di napoletano, tra l'altro. Non è vero. Qua. Ti giuro, no, ha tirato fuori l'uccello. È un fatto, si è fatto gravissimo. Si è messo a pisciare sulla macchina del direttore, poi si è spostato. Ma non è vero. Ti giuro. Questo è, questo è il dettaglio che non hai dato. Beh, aspetta, non hai dato, lo stavo raccontando. A un certo punto si è messo a pisciare sulla macchina di napoletano, poi si è spostato, sempre uccello di fuori, si è messo a pisciare su un'altra macchina, si fermano dei signori, gli dicono scusa che stai facendo, questo insomma li tratta male parole, e questi boom boom boom mazzate addosso, no. Rissa spaventosa con gente che scende giù eccetera, una cosa pazzesca. Ha pisciato sulla spettacolare. Maurizio da Prato, questo è quello che è accaduto. Monterosa 91, voglio fare una nuova rubrica. Monterosa 91, qualcuno ha pisciato sulla macchina di napoletano. Che colpa ho io? Non ho nessuna colpa. Maurizio da Prato. Sì, buonasera. Dimmi. Sì, volevo dire due cosine. Allora, la prima, tornare a lavorare dovrebbe essere la Camusso. Aver distrutto un sindacato come la CGIL, ridotto a pensionati extramunitari. Secondo di poi, Parenzo ha ragione quando dice che il sindacato deve fare il sindacato. Ma lo faceste però quando ha votato la riforma Fornero, il PD insieme a Berlusconi, 3 ore di sciopero, si è levato il dito dal culo. Questo è vero, questo è vero, questo è vero, questo è vero. Io sono per la Fornero, io sono per la Fornero, però è vero che all'epoca il sindacato, perché il PD era nel governo, appoggiava Monti, eccetera, eccetera, non fece nulla, nulla. Fatta Berlusconi quella riforma, la Camusso ci aveva buttato 2 milioni di persone in piazza, capito? 3 ore di sciopero, Padenzo, 3 ore di sciopero, vergogna, una riforma che a noi ci ha fatto un culo così. Va bene? Va bene Maurizio, perfetto. Eugenio da Milano, buonasera Eugenio. Buonasera, buonasera. Vai. Io chiamavo per insultare Parenzo, cazzo, non è possibile, non è inascoltabile. Questa storia qua della Spinelli veramente è inascoltabile. Ma dice boiate apposta per prendere per il culo, ci crede davvero che quella va a lavorare a Bruxelles? No, come no, tutti no. Gli altri, come tutti gli altri deputati. Ma vanno, tutti, come vanno tutti a lavorare, va a lavorare, che potenzi- a lavorare come tutti gli altri. Come tutti ma gli altri. Chi? Ma cosa? Ma non si lavora a Bruxelles, lo sanno tutti. Ah, cioè, vabbè, ma allora non è la Spinelli in quanto Spinelli, sono tutti gli altri 70 no, è deputati. Che lei ha fatto, è che lei ha fatto la solita buonista del cazzo, per cui sai, ci metto la faccia, poi dopo. Ma poi guarda dopo che già ho già detto, un altro che la mattina non si lava, ho già detto che sì, sia la chiaro, Spinelli, no, un altro che non si lava la mattina, stai, sia stai la chiaro. Spinelli, sia la Spinelli, sento l'odore da qua, sentiamo. Sia la Spinelli, calmo, sia... Lorenzo. Lo sento da qua, c'è la radio olfattiva ormai. Allora... Se uno non si lava le orecchie la mattina, il risultato è questo. La Spinelli, colpevole. La Spinelli, colpevole. Sì, due volte Lupi, colpevole. Due volte colpevole. Due chi volte. Si candida, dopo... chiede i voti e non va, sì, ma colpevole. Vai oltre, adesso fa un secondo errore. Ho detto un'altra cosa. Che hai detto? Dopodiché ho avanti. Detto che ora che si è resa, ha preso i voti, quindi ora dice... Ora che si è resa conto. Sì. Ora che si è resa conto. Ora che si è resa conto del coso. Che cosa? Non ho capito. Ma che cosa? Siccome i voti li ha presi, bene che ci vada. Bene che ci vada, ma ci deve andare. C'è solo un termine per definire una persona del genere, che è paraculo. Ma, capito? Non so, rispetto okay, a che, ma rispetto a che cosa, rispetto però? Al fatto che non è che lo fa per soldi. Guarda, euro, non mi, come io. Si chiama questo che non mi ricordo? Voglio chiamarti per nome. Come si chiama questo qui? Mi chiamo Eugenio. Eugenio, dovresti essere anche di buona genia, come dice il tuo nome. Caro Eugenio. Di nobile stirpe, caro esattamente. Mio. Esatto, di nobile stirpe, come dice il tuo nome che viene. Vabbè, da allora? Bene. Allora. Doppio errore, perché doppio... prima ha detto, prima ha detto che no, che si sarebbe rimessa. Adesso ci ripensa per... Allora, non è che Barbara Spinelli va là per l'emolumento previsto, no, perché no, peggio ancora, peggio ancora. Ma allora non avete non capito che ne sai. Lo so, perché la Spinelli da editori. Oh, ma questo che non si lava le ore. Ma Eugenio, riesci ad ascoltare? Se ti danno 20.000 euro non fai un cazzo. Non li, ti puoi non togliere prendi, il no. Cotton Fioc dall'orecchio. Ascoltami, ti ho detto, la Spinelli come editorialista del quotidiano La Repubblica, non come credo che abbia. Editorialista del quotidiano La Repubblica, non ha bisogno. Ma chi te l'ha detto? Oddio mio, non ha bisogno di quei due spicci in più, gli dà i suoi amici, li dà a me. Se vuoi, vabbè, se vuoi, comunque, al di là dei soldi, cioè non lo fa per opportunismo soldi. Legato al denaro. Questo per ti sto provando fa? A dire. Qual è lo fa perché per si è resa conto. Sì. Sì. Ma lo direi anche per lo direi anche no, se no, va benissimo. Il problema è che è un errore lo stesso. È un errore no, lo stesso. Fai finire o no? A prescindere che è un errore uguale. È un errore, una contraddizione spaventosa. Ho detto che c'era l'errore già prima. L'ho detto, ma voi vi sentite le cose o no? Lei, vabbè. Quelli di Celso incazzati con lei. Incazzatissimi. Grazie, Eugenio. Ciao, ciao. Maschietto, maschietto, maschietto. Maschietto, sì. Oh, allora, racconto da Johnny, barista omosessuale del Sole 24 Ore. Barista omosex del Sole 24 Ore. Lo conosciamo e si batte. Mitico Johnny, mitico, sì, mitico, sì. L'abbraccio fortissimo. Ma che c'è da dire, aspetta, che è omosessuale, aspetta, il barista? Ma del ti sole, dico, oh mamma mia, ti dico, a parte che qui noi siamo fieri di avere un barista omosex. Ma gay. Perché? È un io barista, sono fiero. Punto, bravo. Barista omosex. Ti dico solo questo, il commento che ha fatto è stato il seguente. Due punti, Johnny, virgola, barista omosex del Sole 24 Ore. Aspetta, a me non capita mai di vedere uno con l'uccello. Ma di cosa per parli? Strada. Ma perché devi parlare di questa cosa? Ma io non capisco. È il numero uno, è il numero uno. Johnny, ti prego, sali qui, ti prego, sali qui, caro Johnny. Oddio. Giovanni da Bergamo, dai, su, è numero uno, uno che ha detto. Ma sì, battuta, ma di lo devi leggere, scusa, battuta di Johnny, così, fondamentale. A me non capita mai di vedere uno con l'uccello di fuori per strada. Giovanni da Bergamo, dai. Ciao Cruciani, dai. Ascolta, anche se questa sera non hai perso occasione di dire la tua cazzata a proposito delle dichiarazioni del Papa, è notorio che ci sono un gran numero di coppie che non hanno figli per essere libere, tranquille. E allora? E allora? Come allora? E allora? Oppure adottano appunto degli animali. Ma qual è il problema? Scusa, Giovanni, è una libera scelta, perché il Papa... cose appalate, e tu non so dove cazzo prendi le tue verità. Che ma io non ho detto nessuna verità, ho detto... Giovanni, stia calmo innanzitutto, e no, si metta bene... Sono calmo, sono qua in colonna, purtroppo, come tutte le sere. Sì, ma lei ha l'auricolare o il viva voce? No, non ho l'auricolare nel viva voce, c'ho il telefono in mano. Bene, ottimo. Sono in una bella colonna. Fermo. Oh, viva la colonna, viva chi ascolta la radio in colonna. Allora, Giovanni, ti dico solo questo. I sostenitori, Giovanni, però ti dico questo. Assolutamente, hai ragione. Ti dico questo, però. Io ho semplicemente affermato, detto, che la gente può fare quello che vuole, anche scegliere di non avere figli per avere i cani. Io ritengo che non sia questa l'alternativa, per cui trovo la frase del Papa di una banalità sconcertante. Lo posso dire che trovo il Papa di una banalità sconcertante? Mi posso permettere di dirlo, oppure il Papa è incriticabile? No, ma il Papa è criticabile, questo qui per me è eccezionale, io non sono cattolico, per me... vabbè, eccezionale, vabbè, a lei piace sto Papa, no, a me no. Se tu vai a chiedere alle varie multinazionali, Purina e via dicendo, Nestlé, che hanno i cibi per animali e fanno le loro belle ricerche, che sono sicuramente allora? Contenti di condividere, vedi proprio le coppie di giovani che oggi, anziché fare un figlio, preferiscono avere un... Ma oggi è già da qualche anno... Ma saranno affari loro, ma perché devono essere trattati dal Papa come se fossero dei marziani o delle persone fuori lì? Che li abbia trattati così, però. Ma no, ma non è che li ha presi a schiaffi, è sempre il Papa, no? Però che la gente oggi, per proprio egocentrismo, per proprio. Ma non è egocentrismo, spesso è necessità e altre cose, dai, su, grazie, grazie Giovanni, grazie, ti abbraccio, viva la fila, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ottima trasmissione, sempre la migliore. La Zanzara. Oh, Gamma 7 da Milano, Gamma 7, credo tassista da Milano, mi scrive: da stasera ti faccio un reportage su Milano, li vedo tutte le sere lì, cioè le persone, insomma, no, con l'attrezzo di fuori, come è accaduto qui davanti alla sede del Sole 24 Ore, dove si è scatenata una rissa pazzesca per un signore mezzo ubriaco che si è messo a fare la pipì dappertutto. Dalla sua casa in Friuli, grande collegamento, grande ritorno alla Zanzara dopo il ritorno del Palermo in Serie A. Siamo tutti molto molto contenti, non ce ne vogliono le altre squadre, ma noi insomma facciamo un grandissimo tifo per Maurizio Zamparini. Buonasera. Ciao Carlo, ciao, buonasera a tutti. Come andiamo, Maurizio? Bene, bene, sono con gli amici qui a casa mia in Friuli a parlare di calcio, cioè i tecnici, il mio direttore. Chi c'è? Iachini, tutti, Iachini. Sì, esatto, tutto il team. Tutto il team è riunito lì, ma è una cosa spettacolare. Saluta tutti, grande abbraccio dalla Zanzara. Allora, io voglio capire una cosa. Innanzitutto, di che parlavate? Della nazionale, immagino. Anche no, parliamo della squadra di Palermo dell'anno prossimo. La nazionale non ci passa neanche per l'umore del cervello. Perché? Non te ne frega niente dell'Italia a te? No, me ne frega, sì. Ma che te frega dell'Italia? Dai, se vinci. No, a tutti noi interessa dell'Italia. Siamo un po' sempre pessimisti, ma poi abbiamo vinto tanti mondiali, col nostro pessimismo. Sì, ma ha fatto una carognata Prandelli con questa cosa di Giuseppe Rossi, secondo te? Un po' sì, eh. portarlo fino alla fine. No, ha fatto una scelta secondo me solo di opportunità tecnica. Poi sai, se i risultati vengono lui ha ragione, se i risultati sono negativi ha fatto una carognata, questo è il calcio. Lo so, infatti questo è il punto. Ma è vero che tu volevi vendere uno, sei pronto a vendere uno straniero? Cioè una... No, io sto cercando, come penso tanti in Italia, sicuramente le banche non ti danno più soldi, non c'è finanza, sto cercando uno che entri dentro nel Palermo, anche perché io ho una certa età e prima o poi dovrò anche mollare, a portare dentro una certa quantità di soldi nel Palermo per poter combattere per la Champions, tutto qui. Ah, vuoi combattere per la Champions addirittura, l'obiettivo è quello? Ma ci vogliono almeno 50 milioni che entrano dentro dall'estero. 50 milioni, ma questo famoso socio arabo non esiste più ormai? No, ci sono trattative che ci sono con tanti arabi, con tanti personaggi dall'altra parte, però tutti hanno paura del sistema Italia. No? Quello è il punto, nessuno vuole investire. Caro qui. Ti costa sto giocattolino, caro amico Zampa, caro ti costa il giocattolino del calcio, caro ti costa. No, il giocattolino non costa più, è costato tanto, adesso in questo momento qui dobbiamo fare di necessità virtù e naturalmente no, il Palermo c'ha un bel bilancio, ce la fa con i suoi mezzi. Però perché gli stranieri non vengono a investire in Italia? Dimmi la verità. Perché? Non vengono a investire in Italia, non solo nel calcio, non vengono a investire da nessuna parte perché abbiamo una burocrazia impossibile, mancanza del diritto, delle tasse impossibili, la difficoltà a fare qualsiasi impresa, basta fare degli esempi stupidi, no? Da noi vai a fare un permesso che ci vogliono, all'estero ci vogliono 4 settimane, noi ci vogliono 4 anni, questo è il problema in Italia, abbiamo una burocrazia che nel tempo è cresciuta a dismisura, creando posti di lavoro inutili che invece di favorire la produzione di ricchezza e l'investimento. Qui bisognerebbe licenziare bisogna che voi la scriviate la Veritalia, capite? Non è quella di Roma, non è quella delle banche, è quella della gente, è quella delle fabbriche, è quella dei commercianti, è quella dei piccoli imprenditori. Però Maurizio, diciamo la verità, qui bisognerebbe licenziare un po' di dipendenti pubblici. Ma no, bisogna licenziarli. Non puoi una famiglia che ha un impiego tirare via lo stipendio e c'ha i figli. No, gli diamo lo stipendio lo stesso. Dobbiamo trovare un lavoro produttivo. Non un lavoro che boicotti quelli che producono ricchezza e che freni. Un lavoro costruttivo. Tu sei diventato renziano o no? Anche tu o no? Pensi che sta facendo bene? Io sono andato a pranzo ospite di Renzi circa un anno fa. Lo so, ma adesso che come? Io seguo con molta attenzione, come tutti gli italiani, quel 40% che andano al voto, che gli hanno dato un voto anche di speranza, perché abbiamo speranza nei giovani. Ah, per cui l'hai votato? Nei giovani che vogliono cambiare. L'hai votato, io Renzi? Io ho le difficoltà che ha lui. Tantissime difficoltà, dobbiamo aiutarlo tutti perché la difficoltà è quella della burocrazia, è quella delle istituzioni incancrenite che non mollano il potere. Sei salito pure tu sul carro, Io non sono mai andato su nessun carro, non voglio posti, non voglio niente, anzi se posso dare qualcosa lo do gratis ma senza salire su nessun carro. Io parlo da italiano perché voglio che l'Italia però cambi. Hai votato Renzi adesso alle europee? Io non ho votato questa volta per nessuno. Come no? No, non sono andato a votare, ritengo le europee un voto inutile, ritengo l'Europa la cosa più stupida che noi abbiamo, questa Europa. Una baracconata che... di super burocrati che ormai ci tolgono la libertà dell'onore della nostra indipendenza. Ma questo Farage allora ti piace, questo leader inglese con cui si allea Grillo, che vuole dire... Ma io sai, non seguo la politica non europea e la politica in generale. Sbagli. Io non, la televisione, guarda, quando guardo i documentari, guardo il calcio, guardo lo sport, no, non seguo, la nostra politica non la seguo quasi per niente in televisione in diretta, no? Perché veramente mi fa diventare triste. E così anche la politica europea mi fa diventare triste. E Grillo? Ma Grillo è stato uno che ha cavalcato anche lui la protesta, come ha fatto Bossi anni fa, come aveva fatto l'ex magistrato, come tutti hanno fatto quelli che a un certo momento cavalcano la protesta. Però è morto? Ma non propone niente. Io quando le ho dato il voto a Grillo alle altre elezioni, gli ho mandato un messaggio, gli mandavo i messaggi, gli ho detto guarda, è il momento di sedersi attorno a un tavolo a costruire questo paese e a fare le cose per questo paese, non l'ho più sentito. Lui non sa come si ricostruisce, sa come si distrugge, ma è troppo facile. È troppo facile, dice. Dunque è iniziato il declino, secondo te, di Grillo? Il declino verso il basso? Ma secondo me il voto di protesta è lo stesso messaggio che ho dato quella volta. Ho detto, guarda che di quel 25%, il 5% è tu e il 20% è un voto di protesta che poi ti tolgono. Dunque tu alla fine, secondo te, il vero grillino è Renzi? Potrebbe essere Renzi? No. Renzi è una speranza che i giovani vadano nei posti dove si decide e tutti insieme lavorino. Senti, a proposito, ma questa cosa anche noi vecchi a fare i consulenti, non i porti di potere. Senti, ma questa cosa incredibile della RAI che vuole scioperare, ma ti rendi conto o no della follia? Lo sciopero della RAI perché Renzi vuole far risparmiare alla RAI 150 milioni. Ma tu che faresti se fossi il dimmi la verità. Prenderei a calci in culo tutti. Prenderesti tutti a calci in culo, diciamo. Sì, esatto. Ma è perché è un posto di parassiti la RAI, diciamo. No, io non li conosco personalmente. Però un po' di buon senso ci vuole, no? Uno vede i bilanci della RAI, vede quello che produce, le schifezze che produce, sì. E poi quando che si offrono, non è causa del singolo, però Renzi naturalmente vuole metterci mano, va bene. Cioè un'azienda normale si metterebbe a fare grande pulizia lì alla RAI, no? In un'azienda normale non ci sarebbero tutti quei dipendenti, quelle cose, o no? Ma probabilmente sì, se non fosse sovvenzionata da noi, naturalmente dovrebbe far quadrare un bilancio, altrimenti fallirebbe, no? Un attimo solo, pubblicità, poi torniamo con uno scatenato Maurizio Zamparini che si trova in Friuli con tutti i suoi tecnici a progettare il Palermo del futuro. Ma senta Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la Zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. La Zanzara. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che... Cruciani, non devi dire cazzate. Allora, Salvo Mandarà, giornalista freelance molto grillino, Mi scappa la diretta. Lo conosci questo programma, Parenzo? Mi scappa la diretta. Lo seguo ogni giorno. Io mi informo solo con chi non guardo siti. Io seguo soltanto questo importante canale con le inchieste. Sei veramente un coglione. Il reportage del signor Mandarà. Sì, sì, certo. Ti dispiacerebbe andare a fare il culo? Sì, sì, sì. Seguo con interesse ogni giorno la mattina. Dormo in genere 6-7 ore, però della mattina alle 7, appena mio figlio si sveglia, quindi devo subito. La prima cosa che faccio, il bambino piange, latte. No, io voglio sapere le notizie. Quindi che orrore. Esatto, esattamente. Quindi allora c'è un tizio che si chiama Sergio Bellone su Twitter. Non lo voglio indicare ai signori della polizia, ai signori della Digos, ai signori che sono qui all'ascolto. Agli amici delle forze dell'ordine. Agli amici delle forze dell'ordine, sì, bravo. Sì, sì, che sì. Scrive: ti do un consiglio, vai a calmo. Te. Sì, a me. Sì. Ti do un consiglio, vai calmo, altrimenti qualcuno ti metterà in carrozzella malconcio. Ora, signor Sergio Bellone, signor se poi ti chiami veramente così, allora io voglio dirti solo che dicendo urbi e torbi, comunicando alle forze dell'ordine, alle forze di polizia, ai militari, questa tua frase, questa tua gentile ma frase nei miei confronti, cioè non lo reputi un buon augurio, dici? Beh no, finire in carrozzella, per questo te lo prendi così. Finire in carrozzella non è proprio il mio, cioè la ritieni una minaccia, con tutto rispetto a quelli che hanno subito gravi incidenti, lo ritieni una minaccia sostanzialmente. Ma no, che minaccia, ma di che stiamo parlando? Però non si sa mai, perché non risulti proprio simpatico. Senti, non mi vuoi far sentire Mandarà, No, sentiamo Mandarà, certo. Senti, volentieri, molto. E poi c'è stato un collegamento anche con la Zanzara Radio 24, è giusto citarli. Certo, il modo con cui Cruciani e Parenzo si occupano di questi temi è sempre il loro modo paraculo che tutti voi conoscete bene, sempre a cercare di sminuire, a cercare di ridicolizzare, eccetera. Però va comunque dato atto che 1 milione di persone che ascoltano Radio 24 hanno potuto sentire quello che avevo da dire. Oh, Mandarà ha detto che Bilderberg è all'origine dell'omicidio Kennedy. Saluto Cruciani e Parenzo. È ovvio che se avessero una conduzione diversa sarebbe tutto più facile, tutto meglio, invece di stare sempre attento a difendersi, a dire le cose misurate, eccetera. Nello stesso tempo ogni tanto gli devi lanciare la bombetta perché loro si eccitano, tipo ho lanciato solo da loro e non da paragone, non c'era bisogno, il fatto che il Bilderberg probabilmente sta dietro anche all'assassinio di Kennedy. Loro ci vanno a nozze con queste cose qui. È ovvio che io non ho le prove di questo, nessuno potrà mai avere le prove. Però insomma sta di fatto che Kennedy non è che è morto perché ha avuto il raffreddore, è morto perché ha avuto uno scontro con un proiettile. Parenzo, prego. No, guardate amici, non c'è molto da dire. Non c'è, francamente. Gli ho regalato, partiamo dall'inizio, perché uno può analizzare il discorso di Mandarà nei dettagli. Ho dato questa chicchetta alla Zanzara in onda paragone, questa bombetta. che bombetta hai dato? Che forse, ma non ho le prove, forse, ma non ho le prove, Kennedy è stato ucciso dal Bilderberg. Ma che bomba è? Che cosa vuol dire? Poi dice uno si incavola, vai matti. Ho regalato questa bombetta alla loro si eccitano. Ci eccitiamo perché sei matto, non per la bombetta. Kennedy sarebbe sta. Ho regalato migliaia di giornalisti nel mondo hanno indagato su quella questione, ma persone che sono morte, gente che ha scritto, giornalisti investigativi, arriva Mander, vedi che mi si impossessa di Grillo. Ma è con noi, cioè dai, è sempre perché? Con noi Maurizio Zamparini. Allora Zamparini. Voglio chiedere a Zamparini una cosa. Sono presente anche voglio qui, chiedere a Zamparini capo, come abbiamo Zagrebelsky, ma no, Zamparini, no, Zamparini è numero uno, altro che Zagrebelsky. Ma Zamparini fa impresa, altro che filosofia, professori, eccetera, dai, su, cioè è uno che fa impresa. Bene, tra l'altro è stato pure assolto recentemente dopo anni dietro la magistratura delle cazzate pazzesche, no Maurizio? Dimmi. Fa parte del nostro sistema, delle istituzioni che dicevo prima, che sono la cosa più malata di questo sistema, che noi, l'Italia deve cambiare lì. Ma Berlusconi che deve fare? Deve ancora continuare in politica? No. No, Berlusconi che si interessa del Milan e basta. Basta, ma ancora continua, ancora intigne con la politica, ancora come dire, no, è la stessa cosa per cui vuole ancora, si tocca tutti gli anni per rimanere giovane di 30 anni e ne dimostra 20 di più. Cioè la politica ha fatto troppo danni che va a casa, basta. Ho capito, però ancora che vuole fare gli accordi. Ma adesso non fa più danni, adesso fa ridere. Fa ridere ormai, cioè fa ridere. Hai visto che adesso c'è anche Dudina con i cani, con i barboncini. Tu ce l'hai i cani, hai visto il cane di Berlusconi? Che ne pensi di Dudu? Non lo conosco, io ho 5-6 cani sempre, cioè vivo in campagna, per cui questi figure non c'hai i barboncini, quelli sono no, non c'hai i barboncini, se li mangiano i barboncini qualcosa, se li mangiano a colazione i barboncini. C'ho dei labrador, degli incroci che vado a prendere in qualche canile quando sono abbandonati. Altro che Dudu e Dudina, e Dudina. Vabbè, ho capito, ma avrà fatto una cosa buona Berlusconi nella vita? Una buona l'avrà fatta, Mori? I soldi. Ha fatto solo i soldi? Beh, la TV commerciale, il Milan. E poi no, il Milan l'ha portato a grandi livelli. Ha inflazionato lui il calcio in Italia quando aveva tanti soldi, perché lui ha cominciato a pagare il triplo delle altre squadre e a vincere tutto. Capito? Ha fatto un po' quello che fanno adesso il Real Madrid, il Barcellona, quei fatturati che hanno, no? Che riescono a fare. Però voglio dire, la grande speranza degli italiani è stato un imprenditore, il cosiddetto imprenditore, che andava là per cambiare il paese. E invece quando l'ha lasciato peggio di prima. Un fallimento totale, secondo te? Ma questi che ancora gli vanno dietro? Un fallimento totale, perché non ha fatto l'imprenditore, non ha fatto quello di cui questo paese ha bisogno: rinnovare le istituzioni, no? La Consulta, il COCCI, 10.000 istituzioni che hanno fatto per bloccare tutto, no? Noi avremo bisogno di una sola cosa in Italia. Ecco, Renzi dovrebbe diventare come Putin in Russia. Cioè? Il potere per cambiare e legiferare e lavorare per gli italiani. Putin, che se ne dica, lavora per i russi. Cioè tu dici è numero uno in questo momento nella politica mondiale, Putin, numero sicuramente uno. Sicuramente, perché lavora per il suo paese. E gli imprenditori di là, i cosiddetti mecenati, sì, che si provano a portare fuori un rubro finto al suo consenso, col cavolo vanno a finire nei gulag, perché lui ha detto: voi avete fatto i soldi gratuitamente con poco lavoro, però investite nel vostro paese. Beh, però non è bello finire nei gulag, adesso io ho esagerato, se io potessi, sai, manderei parecchi politici nei gulag. Manderesti? Dei nostri politici parecchi nei gulag, ma li do da mangiare, mica farli soffrire. E chi? No, fuori dalle scatole. Chi ce li manderei? Chi manderesti nei gulag, Mori? No, basta. In generale. In generale, c'è niente in generale qua. Senti una cosa, però, ma chi è che nel Palermo vale più soldi? Cioè, il giocatore del Palermo che vale di più in questo momento, chi è? Hernandez, chi è? Ma Hernandez, può essere Hernandez, può essere Di Bala, non abbiamo in questo momento. Quanti soldi vale Hernandez, per esempio? Hernandez 15 milioni. 15, ma l'Inter glielo dai, che dici? Ma l'Inter deve chiederlo. Poi l'Inter in questo momento qui cerca di vendere giocatori, di fare cassa, perché di solito l'Inter è sempre stato quello che va a comprare i giocatori dai club minori. In questo momento vuole vendere per fare cassa. Vuole vendere per fare cassa, ormai. Si vede che la cassa non ce l'ha, non lo so io. Ma lo vendi Hernandez? Ma se c'è l'offerta giusta, lui vuole andare via, Hernandez, perché è già 4 anni che è con noi. Se ti danno 15 milioni, glielo dai con l'impacchettato, dici, no? Sì, sicuramente. Glielo dai, vabbè, ho capito, però devi fare la squadra per fare la Serie A, attenzione qua, cioè devi fare la squadra per fare la Serie A, non è che vogliamo un altro anno di sofferenza. Noi perché abbiamo già tanti altri punti importanti e ne prendiamo. Però vogliamo dire ai tifosi del Palermo che non sarà un anno di sofferenza? No, assolutamente, io punto alle coppe perché Iacchini penso che sia uno dei più forti allenatori e seri che sia sul mercato. Puntiamo alle coppe, benissimo, puntiamo alle coppe. Io voglio chiederti un'ultima cosa, caro Maurizio. A due passi dal Friuli, Parenzo, tu lo sai bene, a due passi, io andrò a Pordenone sabato, tra l'altro, insieme al signor Filippo Facci, andrò a Pordenone nella giornata di sabato. Piace passare il sabato. Vicino, così. Vabbè, vado con Facci a Pordenone. Che significa? Tu stai con la tua famiglia, io faccio i cazzi miei a Pordenone. Non so sabato. Abbi pazienza. Sabato questo, mi sabato chiedi. Questo vado a Pordenone. Ah no, io sono alla Repubblica delle Idee. Sabato. Benissimo, bene, vai alla Repubblica a Napoli. Delle Idee. Bravo, anzi, bravo, vai. Te lo dico subito, da giovedì sono sì, alla Repubblica. Sì, sì, vabbè, sono poi, a Napoli. Poi vedremo. Giovedì, venerdì, sabato, allora, e domenica. Te lo dico. Sì, sì, lo dici un corno. Intervisterò per la radio anche Sigmund Bauman, che sarà sicuro. La allora, delle voglio, chiedere, sì, sì, sì, sì. Voglio chiedere una cosa a Zamparini: a due passi c'è la sua, ma ti pare normale, Maurizio, che noi in Slovenia aprono imprenditori sloveni o tedeschi, non lo so, sì, aprono certo. Bordelli, cioè case per le donne, prostituzione legalizzata e tutto, e ci facciamo fottere questo business dagli sloveni o comunque dall'Austria, eccetera, eccetera? Ti pare ma normale? Certo. Era in Lombardia anche dalla Svizzera, basta che tu vai in Svizzera, io non ci sono mai andato, ma me lo raccontano che ci sono sempre stati anche là, però sai, noi abbiamo avuto sempre qui il catto comunismo che ha bloccato un po' queste cose qui e le nostre povere ragazze le mandano per le strade senza pulizia, senza niente, per cui adesso però è passato anche quel momento lì, perché adesso c'erano gli appartamenti, però io direi che quello non invidio quello alla Slovenia invidio che loro attraggono gli imprenditori che se vanno là gli danno i permessi per intraprendere in pochissimo tempo, pagano il 20% di tasse contro il nostro 70%, sì, d'accordo. Così come in Austria paghi il 25%, non hai ICI, ASI, non c'hai niente e in 15 giorni ti danno i permessi per intraprendere. Però ho capito, ma in Austria è possibile mai che aprano bordelli a non finire e noi non facciamo niente? Bisognerebbe aprirli anche in Italia o no? Queste cattedrali del sesso? Come no, Maurizio? Il problema dell'Italia non è quello. Ma lo so che non sarà il problema, ma legale. Che li aprono anche noi. È il problema di Cruciani quello. Ma non è il problema di Cruciani. È l'unica industria economica di cui ti interessi. Perché Barisoni, prima di noi, dalle 18 alle 18.30 e si occupa di economia nella radio del Sole 24 Ore, non vedo vabbè, che fa allora, focus e approfondimenti sempre allora, su. Se non li vuole... dildo e quello e quanto costa se e quanto ce l'ha lungo se volete, quanto... se volete parlare di economia io ho una trattativa con i imprenditori che verranno qui che porteranno 500 milioni di euro di investimenti nel turismo, che è una cosa diversa. Sì, d'accordo, 500 milioni, ma apriamoli, sì, apriamoli. Lo vedrai sui giornali fra 15 giorni. Cioè, che è successo? Stai portando 500 imprenditori che portano 500 milioni? Sicuramente, investimenti, sì, in Italia. Ce ma dove investono? E ne importeranno anche di più, perché loro vogliono investire in Italia. Ma dove? Dove vogliono investire? In che settore? Io sono il riferimento, ma investiamo in Italia nel turismo, sicuramente. Nel turismo? Cioè, ma che cosa apri? Una specie di... No, ma devi pensare che uno sei come ha detto, ma perché non venite in Italia a fare le terme? Perché ha detto che voi le terme non ce l'avete. Noi andiamo in Olanda, in Germania, in Inghilterra, nel paese più bello del mondo che è l'Italia, non veniamo perché voi non siete attrezzati. Ma come? Le terme ci sono, le terme? Noi non siamo attrezzati perché ci proibiscono di fare investimenti. Ma le terme ci sono, le terme? Abano Terme, Chianciano, Montegrotto, ci sono le terme? Ma in Toscana sono poca roba, ragazzi. Monte Grotto, roba di 50 anni fa. Bravo, sono postacci. Ma che 50 dici tu, anni postacci, fa? Dici tu, il mercato mondiale. Bagno Vignoni in Toscana, ma è pieno di no, terre. Vuole dire, Bagno Maurizio, Vignoni è il posto Italia, storico. Bagno Vignoni, di persone che vengono qui. Maurizio vuole dire un'altra cosa. Vuole dire che non ci sono, vuol dire, le terme, quelle ultramoderne come, ma come ci sono no? In altri Bagno paesi. Vignoni è un posto stupendo dove io sono stato, tra vabbè, l'altro, anche qualche tempo comunque, fa. Comunque vuole fare investimento in ci questo settore. Ci sono le terme. Ho capito. Va bene, grazie, Maurizio. A presto. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Scusi, Cruciani, glielo devo dire. Lei sarà un fissato, ma è un fissato col sesso, perché basta che gli parlano di sesso, lei ci si butta a capofitto. La Zanzara. Non mi ammazzo di cane, ma no, un paio al giorno vado. Allora, guardi, adesso ne sto accendendo una perché voi siete realmente la mia vera droga. E dormi in un tombino. C'è l'aria nel letto che mi graffia tutto. Sei ancora in casa, Simo? Ti farò quello che vuoi. Ma che mondo è questo, ma in che cosa sei riuscito a trasformarlo? Se non vuoi vedermi... Il mitico Farage, il mitico Farage. Sentite cosa dice in inglese, ve lo traduco io dopo un lungo consulto. Dopo un lungo consulto. But I met Beppe Grillo last week. That photograph with the empty beer glass on your head, the Times used in the front page, you've got to stop doing that kind of stuff. No, you're right. Ma quella fotografia con i bicchieri di birra vuoti è l'ora di finirla che con certi atteggiamenti? No chance. It isn't going to happen. Lei ha ragione, dovrei smettere di sorridere, di ridere, di avere opinioni e diventare come il resto della classe politica professionale. Non accadrà mai. I think that's all perfectly normal for it. Poi dice anche che sua moglie è preoccupata dal fatto che beve, fuma e non dorme. Quale moglie in questo paese non si lamenta di suo marito? Credo sia normale. Tommaso d'Arezzo. Buonasera, mi sente? Dimmi. Senta, io volevo soltanto ribadire quello che ha già detto un ascoltatore prima su... Dai, dimmi, che c'è, Tommaso? È sparito. Giorgio Marta, da Modena, dai. Marta. Giorgio. Pronto? Dimmi. No, io chiamo da Carpi, in provincia di Modena, certo, chiaro. Bene. È un'altra cosa, un altro mondo Carpi, non so se lo sai. Allora? Comunque, a parte questo, io sono rimasto basito dell'intervento di attacco, tra virgolette, poi ovviamente ognuno può dire quello che vuole, pensarla come gli pare, a Papa Bergoglio, una roba veramente... Ma bravo. Quale attacco? Ma non c'è stato nessun attacco? No, io mi vergognerei, no, io se fossi lei mi vergognerei, una roba incredibile. Ma falla finita. Cioè, voglio dire, uno attacca, a parte il capo della Chiesa che può attaccarlo finché certo. vuole sui contenuti, è stato attaccato su un tema che non ha senso, perché è ovvio che indirizzare il proprio sentimento e le proprie attenzioni a degli animali rispetto all'importanza di una vita, quindi di un figlio, sì. mi sembra una cosa assolutamente importante, non è moralismo. No, io sto dicendo semplicemente, che non è che c'è un'alternativa, o cani o figli. Capito? No, ma chiaro? Il Papa non ha detto così. Il Papa ha detto che la vita e conseguentemente il completamento di un matrimonio è un figlio. Poi se uno non riesce ad averne, oppure non ne vuole, questo non l'ha detto. Ha detto che spesso uno preferisce. Il Papa ha detto che sì, che i Cruciani. Il Papa ha detto in quello che abbiamo fatto sentire. Il Papa ha detto una cosa molto molto semplice. Ha detto il materialismo, il consumismo ci porta a preferire i viaggi. Il nichilismo e anche nichilismo. Ma quale nichilismo? Ma non c'è un'alternativa. E poi uno è libero di godersela e di non fare figli. Uno è libero di godersela e di non fare figli, capito? Io sono più liberale di te, sono di Forza Italia. Uno è libero di godersela e di non fare figli, capito? No, uno è libero di godersela e di fare figli, ma nella tua testa. Libero di rispettare una figura così importante come il Papa, che rappresenta Ma che c'entra il rispetto? Tu non ti puoi permettere di attaccare il Papa Attaccato il Papa? Io ho semplicemente detto il Papa. Quando dice che chi si sposa e non fa figli passerà una vecchiaia in solitudine con l'amarezza della cattiva solitudine, io dico, caro Papa, non è sempre così, stai dicendo una stupidaggine, perché non sempre chi non fa figli finisce la vita nella cattiva solitudine. Ma chi lo ha detto? Ma chi lo sostiene? Non è così, c'è gente felice di non fare figli, qual è il problema? Io lo dico pur avendo una figlia. Comunque Cruciani, mio non era un intervento né contro di te né a favore del Papa né contro il Papa né a favore di te. E allora ma che sei intervenuto a fare? Traffico, dai. Traffico, ma che tema? Capito. Traffico. La Zanzara. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Non mi molesti moschito. Why don't you go home? Non mi molesti moschito. Eccoci qui con Silvano da Verona. Silvano, vai. Eccomi qua, buonasera. Dimmi. Ma volevo solo portare un pensiero che mi è venuto tutto spontaneo durante il tuo intervento. Riprende un po' quello che hanno detto anche altri, nel senso che, anche se magari in maniera un po' diversa, credo che quello che ha detto il Papa a me piace, se non altro per il modo in cui vengono dette le cose che dice Francesco, per cui in un modo anche riflessivo. Poi ognuno può riflettere più o meno a fondo su queste cose. È ovvio che ci sta che ognuno ormai decide se far figli o non far figli e quant'altro, come credo che sia anche ovvio che lui parla. Ma ho capito, ragazzi, però adesso non stiamo qui, non si deve fare l'analisi del pensiero del Papa, no, l'analisi però, profonda. Ecco, se uno dice sbagliato preferire, perché così è stata tradotta la comunicazione, fatta in questo modo. Siccome ha detto sbagliato preferire i cani e i gatti, io credo che l'alternativa non sia cani, gatti o fare figli. E oggi l'alternativa non è non fare figli per divertirsi, perché quello ha detto il Papa. Non è questa l'alternativa, dai. Allora, se io vorrei aggiungere qualcos'altro, cioè, secondo me ci sono delle riflessioni in più. Ma non voglio fare nessuna riflessione, David da Roma, le riflessioni in più. È sbagliato però che tu la tagli così. E allora invece tu come la vuoi mettere avanti? No, no, che secondo me ci sono molte altre implicazioni. Non è solo. E quali sarebbero queste implicazioni? Dimmene una, avanti. Allora, per dire, il pensiero che io faccio con i miei figli è che ogni cosa che loro utilizzano, i soldi che io ho un animaletto in casa, i soldi che io dedico a un animaletto e ai figli, potrei mantenere un paio di bambini in Africa che muoiono di fame. Ecco la puttanata, dai, ecco la puttanata di Silvano. Lo vedi che poi si arriva alle puttanate? Ecco la puttanata di Silvano da Roma. Con i soldi che uno impiega per i cani, per i gatti, eccetera, uno potrebbe mantenere i bimbi in Africa. Ma ti accorgi di aver detto una solenne stronzata, Silvano? Sì o no? Ti accorgi di aver detto una puttanata inaudita o no? No, non ci credo. Non ci credo. Benissimo. Non ti sei convinto. Non è così. Uno ha il diritto di fare quello che vuole, ma non ho capito perché uno deve mantenere un bimbo in Africa, in Papua Asia, in Slovenia, eccetera, piuttosto che mantenere un cane o un gatto. Qual è il problema? Non ho capito. Ma non è un problema. Ma perché bisogna imporre questa cosa qui? Perché se uno non fa una cosa del genere, uno stronzo, è uno inumano. Perché? Non ho detto questo. Io ti ho detto che insegno ai miei figli che quando usano l'acqua e quando usano, per cui la responsabilità che ti prendi anche con le scelte che fai, se tu decidi di non aver figli, sei libero di non farlo. Però secondo me ti puoi anche porre qualche pensiero sul perché lo fai e su quello che decidi di fare con i soldi che hai. Questo è il messaggio che il Papa può dare, perché il messaggio va al di là. Sì, ma lo sai che io veramente non ho, quando uno si mette ad analizzare queste cose, veramente non capisco. David da Roma. Ecco, ovviamente. Dimmi. Solo per dire che secondo me il Papa vuole dare un messaggio un po' più lungo e trasversale. Sicuramente c'è gente che non accetta più l'impegno in nessun modo, anche quello dei figli, ed è questo che secondo me lui vuole dire, semplicemente questo. Quindi c'è molta gente che davvero litiga su cani e gatti anche per questo motivo. Poi ci mancherebbe, ognuno è libero di fare le scelte che vuole. E io allora? Non lo assolutamente. Secondo me ha ragione, perché fa parte un po' del mondo che diventa sempre più comodo, e spesso fare figli diventa una vera scomodità. Ma quando? Te lo garantisco. Ma non è così. Ma poi uno, se vuoi, scusate, ma mica è obbligatorio. Ma cosa, scusami, mi hai detto che tu hai ragione. Ti ho detto, tu hai ragione quando dici, ognuno fa quello che vuole. Secondo me il messaggio che vuole dare però è diverso. Così come c'è la tendenza a rendersi comodo tutto, c'è anche la tendenza a togliersi tutto quello che è scomodo, e anche i figli possono diventare scomodi. Ma qualcuno scrive la critica al Papa è inutile, ovvio che il capo della Chiesa promuova la famiglia, esatto. Ma su questo non c'è dubbio, ma nessuno dice il contrario. È il fatto che abbia messo in mezzo i cani e i gatti, la vecchiaia infelice, i cani, i gatti, la vecchiaia infelice, e i cani e i gatti e la vecchiaia infelice, e allora, dai, su. Ma questa è un'esagerazione, potresti avere ragione tu, però una cosa concedi. Ma io quello ho detto, è chiaro che promuove la famiglia, no? Quanta gente gira con questi cani e li tratta veramente come i figli. Lasciamo stare gli anziani, al di là del cuccio, il cane piccolo e tutto il resto, non entriamo in questi. Però è evidente, evidentissimo, che spesso lo si fa per scarsità di voglia di impegno. E questo, se mi permetti un po', rispetto al credo cristiano, è sbagliato. Poi ti ripeto, guarda, io sono d'accordo con te, che la Chiesa, ad esempio, io questo fatto che ancora non consentano, non dicono chiaramente che ci voglia l'utilizzo del condom, eccetera, perfettamente d'accordo con te, io non devo difendere nessuno. Dai. Però ci mancherebbe, assolutamente, anzi sono abbastanza incazzato per questa cosa. Però su questa cosa consentimi, secondo me non ha torto, perché ne conosco tanta, troppa gente che non decide di non avere l'impegno in nessun modo. E i figli sono uno di questi modi. Ti saluto e in bocca al lupo per la trasmissione. Ciao. Ciao, ciao. Well now, little mosquito, there must be well, some reason for you that I just can't see. Well there is, well you're right son, you see God put me here. Dottoressa Cancellieri? Sì, buonasera, chi parla? Sono Cruciani, da Zanzara. Carissimo Cruciani, buonasera. Come sta? Stiamo bene. Anzi, se ricordo quel motivo della faccia, buonasera. Ma no, veramente. Che mi fa questo. Sì, quello me lo ricordo, adesso mi viene in mente. Non fa mai sì. Niente. Capisci un bel piattone di tonnavelli, cacio e pepe, come li preparo io, poi insomma non ne parla nessuno. Però scusi, a parte che sono a Milano. Cancellieri, un ristorante. Vabbè, quando viene a Roma faccio la patina, insomma. Ma sì, d'accordo, ma, per carità, assolutamente. Ma com'è che è così allegra, dottoressa Cancellieri? Sì, sono molto allegra, sono particolarmente felice perché la nazionale di Plantelli è targata Roma. Targata Roma, eh? Andare di Roma, io sono una donna felice, una tifosa felice. Però scusi, dottoressa Cancellieri, non mi sembra, a parte che c'è solo De Rossi, Florenzi non è stato... Di Paolo Rossi, vabbè, è stagionato Paolo, no, Paolo Rossi. No, Paolo Rossi non c'entra niente. Peraltro, ma non c'entra. No, non è né l'attore né l'attaccante, quello della ma nazionale. Ma sento uno strano mormorio di sottofondo. E c'è sono io, signora Cancellieri. Allora tutto è chiaro, va bene. Cioè, ho capito. Sto parlando di un'altra cosa. Cioè, Destro non è stato convocato alla fine. Destro. Come non è stato convocato? Ma no, ma è notizia già di qualche giorno fa. È stato ma escluso. Non è possibile. Ma come non ma è possibile? Questo è vergognoso. Questo è scandaloso. Senza Destro, ma stiamo scherzando. Ma scusi, ma lo dica a Prandelli che c'entriamo noi. Senta, è Florenzi? No, ma non è stato convocato nemmeno lui. Mazzaretti? Mazzaretti era impossibile. Vabbè, Totti allora, Totti. Ma sì. No, neppure no. Totti, nessuno. Allora, ma che è questo? Che è il vascello fantasma? Ma gli ha dato le volte al cervello a Prandelli? Brutto figlio di... No, ma scusi, ministro. Ma che adesso, poi, no, mi perdoni, mi lasci parlare. Ma che adesso venga rispedito a casa è inammissibile, è intollerabile. Protesterò alla Corte Suprema dei diritti umani, ma bisogna fare qualche cosa. Ma quale Corte Suprema dei diritti umani? Prima lo svuota carceri, ora lo svuota nazionale. Ma di che stiamo parlando? No, però... di buon umore, adesso mi ha cacciato proprio in uno stato d'animo di asfissia, proprio mi sento soffocare, mancare, mi sento mancare. Vabbè, arrivederci, grazie ministro, grazie ministro, grazie, grazie, grazie. Certo che sto ministro Cancellieri ben messo male, cioè, quando uno perde il potere non c'è niente da fare, cioè, perde proprio la brocca. Giustamente una mia carissima amica mi scrive: se uno si vuole impegnare veramente non dovrebbe fare figli, il pianeta è sovrappopolato. Vero impegno sarebbe rinunciare a procreare, altro che fare figli. E ha perfettamente ragione. Amiche strane, no, ma quale amiche strane? Ha perfettamente ragione. Si chiama Ilaria, questa signorina. Ilaria, mia amica Ilaria. La conosco. Ma che ne sai, ci sono 40 Ilarie. Ma quando? Giusi Andria, buonasera. Questa la conosci? No, non la conosci questa, non la conosci. Vai. Pronto? Sì. Mi sente? Sì. Lei è il signor Sputacazzi? Sì, scusi, non ho capito. Il signor Sputacazzi? A lei? Quanti cazzi volano in questa trasmissione? Ma veramente molto pochi, guardi, le posso assicurare, no, molto pochi. Guardi, io seguo la radio con mia figlia in macchina, mi piace molto la trasmissione, però ci vogliono troppi cazzi, troppe fiche, troppi bordelli, troppi culi. Ma veramente ne sta dicendo più lei in questi 30 secondi, probabilmente non di fronte a sua figlia, di quanti ne sono scappati in tutta la trasmissione. Signor Parenzo è qua. Lo faccio calmare, lo faccio riflettere. È impossibile, guardi. Magari smetterà di sputare cazzi. È impossibile, è un argomento che gli piace. Ma vedo che lei è molto, come dire, sull'argomento è molto ferrata, cara Giusi. Cioè, vedo che è molto, molto ferrata, molto ferrata. Molto, molto ferrata. Mi sembra di capire che è molto ferrata sull'argomento, Molto ferrata. Sì, vabbè. Molto, sono molto più come dire, prego, specializzata di lei, sicuramente. Ma quello sicuro, guardi, diciamo su quello non c'è il minimo dubbio, su quello non c'è il minimo dubbio. Guardi. Ma guardi, ma secondo me lei dovrebbe cominciare a specializzarsi per davvero, insomma. Ma lei dice, visto che ha chiesto prima se apriranno dei bordelli in Italia, probabilmente insomma, c'è una le vie del business sono infinite, cara Giusi. La salute a tra poco. Va contro le leggi di Dio, va all'inferno dritto dritto. La Zanzara. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda, ma poi invece si appoggia proprio addosso a me. No! Che cazzi volano in questa trasmissione. Oh, con sta storia del Papa mi avete veramente rotto le scatole, però. Marco dalla provincia di Venezia, avanti con sto Papa, dai, forza. Che Carissimo Giuseppe, buonasera. Dimmi. Premetto che ho 5 figli, quindi sono già da parte del torto, diciamo. Ma che torto? Quale torto? Non diciamo stupidaggini, quale torto? No, volevo solo dire questo. Secondo me avere dei figli vuol dire anche, diciamo, accettare nella vita un passaggio di consegne. Come ci lamentiamo dei politici che non lasciano le poltrone. Ecco, quindi hai ragione te, non possiamo pretendere, per chi non può averle, diciamo, secondo me il Papa non aveva questa intenzione, però c'è questa idea, alle volte il terrore anche, o non si vogliono avere. Secondo me il Papa semplicemente diceva, apritevi un po' alla vita, alla disponibilità, e io aggiungo questa interpretazione, secondo me avere dei figli vuol dire anche dire passo le consegne, io ho avuto la mia opportunità. Però Marco, non apriamo una discussione infinita sul fatto che è bello fare figli, abbia pazienza, ma è una secondo cosa me hai equivocato tu le ma, è una... del Papa, ma il Papa però, ha detto una cosa ce le hai inutilmente ma le vogliamo dire... risentire queste cose sì, qua le vogliamo risentire le hai inutilmente no, il Papa... attaccate ma io non ho ha detto una cosa ma figuriamoci piana, se io posso normale, attaccare lineare, ma certo non è che sembrare anche che può sembrare anche banale tu che prendi le parti del Papa su ma una cosa ma non prendo le parti del Papa ma ti pare ma il ho Papa detto, ha detto che è sbagliato detto, preferire i cani ai gatti ai figli il Papa Cruciani fa Cruciani siamo d'accordo? Allora è il Papa ha detto come dice ogni domenica tu dirai delle cose banali e normali amiamoci la pace è il Papa è il va Papa bene. Se tu ti metti a fare non è quello, ha detto... il puntiglio anche alle allora il Papa traffico Riccardo da Roma cosa c'entra col c'entra Papa? Riccardo da Roma. Perché tu fai così? Il Papa ha detto la vita, ma che banalità, ma la vita, ma perché? Riccardo da Roma, sentiamo, interviene quell'altro cretino che comincia a dire "Il Papa, no, quello è romano, così, oh, il Papa deve stare zitto, capito? Tutti i sordi che ci ha, tutto il ricco, c'ha che bella Sistina, hai capito il Papa? Questo è quello che tu vuoi, rendere tutto Riccardo da Roma. Il Papa, i cani e i gatti. Questa cultura del benessere di 10 anni fa ci ha convinto, è meglio non avere figli, è meglio, così tu puoi andartene a conoscere il mondo, nelle vacanze, puoi avere una villa in campagna, tu stai tranquillo, ma è meglio, forse è più comodo avere un cagnolino, 2 gatti, e l'amore va ai 2 gatti e al cagnolino, è vero o no questo? E alla fine questo matrimonio arriva alla vecchiaia in solitudine. Ma perché uno se non hai figli finisce ma in solitudine. Ma no, ma il suo ragionamento è più complesso, ha detto che è una cultura della modernità, ti dice che per ma egoismo detto? Ma sono stupidaggini, posso dire che sono dire che sono stupido, posso dire o no ma che lo sono puoi, stupidaggini? Ma lo puoi dire, lo posso dire, ho la libertà di dirlo, la ho cultura la libertà della di modernità. Non è vero, dice, non è vero, non è vero. Ti dice che fare figli è un grande costo, che invece siccome c'è la precarietà non devi fare figli. Non è vero. Questo ti dice la cultura moderna, purtroppo. Non è vero, ma la tua cultura, non la mia, tutt'altro. Ma ecco noi un mito, una leggenda, Antonio Caprarica, storico corrispondente della Rai da Londra, stupendo. Uscito dalla Rai non mi ricordo da quanto. Ciao Antonio. Stupendo. Ciao carissimi, buonasera. Come buonasera. Va? Come va? Bene, grazie. Molto senza bene. Rai come si sta? Ma no, si vive con molta tranquillità, anche perché insomma uso altre telecamere, da Sky a Mediaset, quindi... Che cravatta hai oggi, caro Antonio? Guarda, ti confesso che trovandomi momentaneamente nella mia abitazione, sì, non hai sono senza cravatta, no. Collo nudo, anche mia moglie nudo. Me ne ha chiesto ragione, però va bene, se come nudo? Fatto una ragione anche. A collo nudo, nudo, ha detto, collo nudo. Collo nudo. Non sì. Siate ossessionati da questo tema della riproduzione, ho detto collo nudo. No, io il Papa è ossessionato dalla riproduzione, io no, sono affatto ossessionato, anzi ho una figlia, va benissimo, riprodursi, però non c'è, voglio dire, questa cosa del Papa che è sbagliato preferire i cani e i gatti, l'alternativa non è cani, gatti oppure figli, no, per carità, poi ridurre il pensiero del Papa a una battuta, a una frase, appunto. È sempre sbagliato, è sempre sbagliato. Senti, a proposito, qual è il tuo giudizio sul signor Farage? È veramente uno xenofobo, un razzista, un personaggio, però io lo trovo un personaggio favoloso. Cioè, che... Ma guarda, come personaggio certamente figurerebbe magnificamente una di quelle commedie inglesi anche degli anni 30 e 40, insomma un po' eccentrico, sempre col boccale di birra in mano, sempre al pub. Guarda, io generalmente non vado molto d'accordo con David Cameron, ma su una sua definizione devo dire ci metterei la firma, perché lui ha detto che Luke Heap, che è questo United Kingdom Independence Party, è un partito di picchiatelli, gente stramba e razzisti mascherati. Ma addirittura. Beh, questa è l'opinione prevalente anche degli inglesi. Eh beh, no, sondati. Prevalente no, questi hanno preso il primo partito, prevalente no. Attento, il primo partito ha preso però il 28%, che non si può dire però... che sia un partito prevalente, io dico prevalente nei sondaggi. Ah, nei sondaggi, tra gli inglesi. Cioè gli inglesi pensano che sia un partito di picchiatelli un po' razzisti. Pensano un po'... che lo considerano un movimento razzista, lo considerano, perché tieni conto che perfino il fondatore degli UKIP se ne andò, no? Che l'ha fondato nel 93, lo fondò all'epoca in funzione dichiaratamente anti-Maastricht, anti-euro, insomma, e poi è diventato, col passare del tempo, se n'è andato perché è diventato un partito anti-immigrati e razzista. Però tu lo consideri, al di là di quello che pensano gli inglesi, Antonio Caparale, lo considera un partito razzista, xenofobo, certo, pericoloso? Razzista è fuori discussione, xenofobo. È un partito che incarna la paura degli inglesi di fronte a una società veramente multietnica che, confesso, talvolta può provocare anche nel britannico originario qualche momento di... Ma è anche un partito anti-gay, un partito anti-gay di questi... Totalmente anti-gay. Ci sono alcune battute, c'è un tizio che si è ripresa perfino con Elton John, poi l'hanno espulso, ma insomma lui ha detto, io mi rifiuto di definire gay quei pervertiti come Elton John. Adesso non si un altro ha detto, non capisco perché è accettato che un chirurgo operi un paziente che intende cambiare sesso, ma non che uno psichiatra aiuti un gay consenziente a tornare etero. Questo ha detto uno, che però poi ha attaccato il Mail on Sunday perché avrebbe riportato in maniera scorretta. Tu sai che questa faccenda dei politici che si correggono con i giornalisti che non riportano in maniera corretta, me lo dici. Appunto, no, è vero. Comunque, però Farage non ha negato, anche se naturalmente ha detto che non voleva, per carità, essere offensivo, però non ha negato di aver detto non vorrei avere dei rumeni come vicini di casa. Sì, è vero, ha detto di aver pronunciato quelle parole in un contesto particolare. C'è sempre il contesto. Per cui se tu fossi, come dire, l'alleanza tra Grillo e Farage ti sorprende, oppure i due hanno qualcosa in comune secondo te? No, non la trovo sorprendente, perché ho paura che nel grillismo ci siano molte componenti che riflettono la stessa paura di fronte al diverso, di fronte alla globalizzazione, la stessa ossessione antiglobalizzazione, il sogno della piccola patria, il sogno delle decrescite felici, tutte queste sono un po' razzisti anche loro, spinto, tutte queste fregnacce per così dire, che però hanno un certo appeal sulla, che bello, Caprarica che dice fregnacce. Beh, ma certo. Caprarica che dice fregnacce, mi avete incitato voi. Ammetto però scusami, Antonio sullo sciopero della Rai non gli chiede adesso nulla, adesso aspetta, che... arrivo con calma, con calma, molta calma, abbiamo ancora qualche minuto. Allora, no, però è vero che c'è, per esempio, nei confronti degli immigrati anche all'interno del Movimento 5 Stelle, in particolare però dei capi del Movimento 5 Stelle, una certa similitudine con le tesi di Farage. Cioè, anche il movimento di Grillo è un po' chiuso nei confronti dell'immigrazione, secondo te? Ma sono contraddittori, per la verità, no? Perché poi in Parlamento i deputati di Grillo hanno votato contro la Bossi-Fini, quindi ci sono degli aspetti che reputo piuttosto strani, sorprendenti. Io onestamente, pur riconoscendo che ci sono dei punti di contatto dei due partiti, però l'alleanza un po' mi ha preso alla sprovvista. Però devo dire la verità, Antonio, guarda, sentimi su questa cosa qua. Secondo me Grillo e Farage sono due outsider, sono due maverick della politica, cioè sono due che vengono, sono due che vengono non dall'establishment, due che vogliono distruggere l'euro, distruggere l'Europa, distruggere i rituali. E questi sono i loro punti di contatto. Giusto o sbagliato che sia? No, assolutamente, questi sono i loro punti di contatto. Poi, naturalmente, le declinazioni di questo orientamento sono diverse. Nel caso degli UKIP, certamente la venatura omofobica e razzista è molto. Cioè, se l'UKIP prendesse il potere in Inghilterra, tu vivi ancora a Londra? Sì, faccio su e giù tra Ma insomma, tu avresti paura di un'Inghilterra guidata dall'UKIP? Cioè, te ne andresti dall'Inghilterra con l'UKIP al potere? Diciamo la verità. Sì, ma certamente, perché insomma sarebbe... Sai che l'Inghilterra è già passata attraverso, perché poi non ce le dimentichiamo le cose, ma già su ha avuto i suoi movimenti xenofobi, razzisti, eccetera. Vabbè, mai al potere, però. Mai al potere, ma con forza, ad esempio, una parte consistente del Partito Conservatore era stata tentata negli anni 50, spaventata dalla globalizzazione. Però se Farage fosse primo ministro, tu andresti, faresti Barack? Ma di corsa, me ne andrei via di corsa, ma grazie a Dio sono così sicuro che non sarà mai, che continuerò, anzi faccio qualche prenotazione per qualche buon musical tra 10 anni. No? Senti, se tu fossi ancora alla Rai faresti sciopero contro Renzi? Ma figurati. Onestamente no. Onestamente no. La fa bene Renzi quindi a richiamare. Fa bene Renzi. Ma non è che fa bene Renzi. Io adesso non so poi che cosa farà Renzi, onestamente, e che fa male la Rai. Cioè la Rai non ha avuto purtroppo gruppi dirigenti, compreso l'ultimo, che come gli altri non ha mai avuto il coraggio di affrontare davvero il tema dell'indipendenza della politica. E quando Renzi se la prende con la tripartizione, ma questa è una Trimurti di 30 anni fa, no? Cioè TG1, TG2, TG3, ma sulla necessità di un solo telegiornale, personalmente, insomma, io l'andavo dicendo da 10 anni. Insomma, sì, perché Renzi ha detto anche motivazione, esatto, no? Renzi dice anche esistono tre telegiornali, è una follia, eccetera, eccetera. È una follia assoluta, totale. Però anche tu adesso non nascondiamoci, Antonio, anche no. Tu hai navigato nella politica, hai avuto i tuoi contatti, hai avuto le tue cose, posso dire la verità? Dimmi. Allora, io avevo una tessera di partito che non ho mai negato e che ho strappato, l'ho avuto all'ultima volta nel 1987. Che qual era? Il PC? Era del PC. Quando sono entrato in Rai non ho più avuto una sola tessera. Antonio ha scritto anche per l'Unità, ha scritto per Rinascita, sì, se non ricordo male. È un passato di cui vado, se mi permettete, come dire, moderatamente. Bravo. Però sei entrato alla Rai grazie alla politica. No, un concorso. No. Sì, vabbè, no. La politica però ti ha aiutato dopo in parte. No, no? Non mi ha aiutato affatto. Non ti ha aiutato. Devo dire, sono sincero, non mi ha aiutato. Quando sei diventato direttore? Ma la mia carriera lo dimostra, dai. Mi hanno fatto direttore dei giornali radio che avevo 56 anni. Mi ricordo che mi chiamò il vecchio direttore generale Agnes, che mi aveva assunto, che era democristiano, io ero comunista, che mi aveva assunto e mi disse: ma sei pazzo, vai a fare il direttore del giornale radio, ma tu devi fare il direttore del TG1. Dice, ma sei giovane, sei guaglione. Dico, guarda, ho 56 anni. L'aiuto che la politica mi ha dato è stato quello di permettermi di lavorare all'estero per gran parte, direi quasi tutti i 30 anni di carriera. Però è giusto risparmiare oggi, cioè i risparmi si devono fare, Renzi c'ha ragione. È doveroso, ma i risparmi non sono anche lì. Non è la Vabbè, poi bisogna vedere dove, quando. Di tagliare la mazzetta, hai capito? La questione è di mettere in piedi una riforma che sia esattamente quella. Questo... Basta con la Trimurti, basta con tutte su queste cose. Su questo, Renzi, per adesso però non parla. Però voglio dire una cosa, se tu oggi ti vergogneresti un po' a scioperare, cioè quelli che, i sindacati che oggi continuano nonostante il garante a proclamare lo sciopero, si devono un po' vergognare secondo te? Guarda, questo non mi piace giudicare gli altri. Io non sciopererei. E cercherei di convincere quelli che insistono che stanno facendo un errore grosso, grave e clamoroso. Grazie Antonio, a presto. Grazie. Ciao. La zanzara stronza. Fabio da Bergamo, buonasera Fabio. Buonasera Cruciani. Vai. Volevo commentare sempre sul Papa, una cosa veloce. E lui ha detto quello che ha detto, ma tutti i suoi dipendenti, cioè i preti e le suore, non si sposano, quindi anche loro finiranno senza figli, quindi finiranno anche loro in tristezza. La provocazione ci sta, però loro sono sposati con il Signore, per cui sì, in realtà hanno un altro... Hai ragione. Beh, questa è la filosofia, caro Fabio. Sì. Ci sta la provocazione, perché tu dici i dipendenti del Papa, cioè i religiosi, eccetera, non si sposano, dunque non hanno figli. Però... è un'altra cosa, anche chi ha figli non è detto che non finirà solo, perché c'è tanta gente che ha figli e che quando sta male, sono anziani, vengono abbandonati. Ultima cosa, io per lavoro faccio l'educatore pedagogista, vedo tanti di quei bimbi che mi verrebbe da dire se prendevano un cagnolino, però a volte sarebbe stato meglio. Vabbè, questa è una stronzata. Cesare da Firenze, buonasera Cesare. Ciao Cruciani, finalmente. Vai. Bene. Ho due palle gonfie fra il Papa e quell'altro di Renzi e la Rai. Almeno si parla di goliardia. Voi siete due goliardi fenomenali. Vi manderò una patacca. Vabbè, che mi vuoi raccontare, Cesare? Allora, ti dico questo, si è iniziato parlando di uno che stava pisciando sulla macchina del direttore, bene? Ma ti rendi conto la roba? Ed era con l'uccello di fuori. Ti dico cosa è successo negli anni 50, un grande goliardo ha fatto questo, lui era alla facoltà di veterinaria. Che ha fatto? Subito dopo la guerra ha preso, ha tagliato una mammella di vacca, l'ha riempita di sangue, andava in giro per Pisa, per Pisa, nei lungarni con questo affare di fuori. Vabbè, ho capito. Da uno stuolo di studenti, ma non vestiti da goliardi. Al che è arrivato un agente, l'ha visto con l'uccello di fuori, lo voleva multare e questo si è messo a urlare: ma noi siamo in libertà, finalmente abbiamo la libertà, ora sai cosa faccio se mi vuoi multare? Me lo taglio. Ha tirato fuori un rasoio, ha tagliato questa mammella di vacca che aveva riempito di sangue e si è rotolato per terra. Non ti immagini il casino che è venuto. Altro è questa avvenuta. Le grandi storie di Cesare. Giuseppe sono? D'Alessandria, per chiudere velocemente, Giuseppe. Velocissimo, ciao Cruciale, mi giro che sono d'accordo con te. Ma allora, se bisogna fare figli, perché cazzo è che hanno dato addosso al referendum sulla legge 40? Bravo, vogliono fare i figli come dicono loro, come dicono loro. Che la Chiesa mi debba dire quello che devo o non devo fare. Beh, non dirlo a questo Papa, però. Parlo di come? Ma no, questo Papa è uguale agli altri, questo ma Papa basta. Su questa questione della legge 40 ma non si quando è ancora mai? Non si è ancora espresso. Su questa vicenda è diventato pure Parenzo, è diventato pure a favore dei papi, vi rendete conto o no? Ci sentiamo domani alle 18:30, fa di tutto, fa nei combini di tutti i colori. Stupidaggine. Marica Fruscio, sono impazzito per Marica Fruscio io. Andatela a vedere, Marica Fruscio. Ci siamo. Grazie, sono da Teco 4, stronzo. Hai capito? Stronzo! La RAI, hanno fatto l'azienda familiare, figli, nipoti, stronzo, hanno fatto l'azienda familiare! Parla tu, canano, stronzo! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io vado a dormire, cara. Radio 24. La passione si sente.